Sì, contrada imperiale della giraffa? Sì. Senta, ma non vi vergognate? Avete ammazzato l'ennesimo cavallo. Ma perché non va a pigliarselo nel culo lei? No, nel culo se la pigliano i poveri cavalli. Contrada della Tartuca? Sì. Voi siete colpevoli di questo continuo, terribile olocausto dei cavalli che vanno a morire per il vostro divertimento. Ma ce lo va a pigliare il culo. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione. Grazie. Astruzzo, sei contento che mi ha fatto pure carcerare? Sì, sì, sì, sì. Al favore, mi ha fatto carcerare! Al favore, al favore! Al favore! Eccolo. Think about all that you feel. Think about all that you give. Think about all that we. Pier Paolo, grazie della compagnia, come sempre. E niente. Multaccio, dobbiamo toccare una bastarda. Figlio di puttana, scusate. Ma no. In Italia dal 1° di gennaio c'è la ricevuta elettronica. Okay. Non dite non rilascia fattura ricevuta, perché c'è la ricevuta elettronica. Andate a vedere a livello fiscale cosa c'è. Aprite la cassetta fiscale perché è tutto ricevuta elettronica. Non si rilascia più nulla perché è tutto elettronico. Ignorante che non sei altro, dal 1° di gennaio. È chiaro? E questo è sistemato, perché non c'è un'evasione, non c'è un euro di evasione. Oh. Sta facendo io lavoro, lo show, giorno, 360 lei... giorni, sì, no, no, che stupida, che dice, lei sta dice, facendo, lei è un... l'energia che fa, l'M, 3 anni fa gli ho detto testa di donna, ancora comincia a rompere le scatole, sta signora, no, è stato sono stato riconosciuto allo che... Stato italiano, creato una nuova professione, è creato, lei, lei un genio che ha creato una nuova scatola, ma un medico, caro L'M, un medico, ma no, che mi vergogno, io mi rifiuto di leggere il tuo libro, così mi hai detto, non sei un giornalista, sì, serio, perché non, no, ti sei documentato. Io non sono un giornalista serio. Dove sei, Veneti? Che lotta tra Giordano e Lemme, caro David, Giordano contro Lemme. Ho ascoltato tutto, sì, è il bue che dà del cornuto all'asino, è uno scontro tra cervelli con Giordano che con Lemme dice lei non può fare lo show, il circo, no Giordano, così gli dico, lei non può fare lo show, dice non può fare lo show, ma scusami Giordano. Ma come fai a dire lei non può fare lo show? Ma come? Ma io voglio dire, ma con il rispetto per quello show straordinario che ogni martedì mette in croce, ma come mette in piedi? Ma come è possibile? Ma non gli puoi dire poi a Lemme lei non può fare lo show? Quello è la patria dello show, quel posto lì ormai. Dai, cosa è incredibile. Comunque, ragazzi, nel mondo ci sono gli animalisti incazzati. Adesso poi torniamo su Giordano. Aspetta, torniamo su Trump. Che Giordano? Ma Trump, ragazzi, è un gigante. Ma ha parlato Trump. Ma è un gigante. Fallo ascoltare tutto l'intervento. Sì, dopo lo faccio ascoltare un pezzetto. Ma è un gigante. Ha ottenuto un successo clamoroso. Donaldone, avanti tutta. Scusi, Freccero, ma secondo lei Trump dovrebbe essere praticamente il nuovo presidente del mondo, dell'Italia? Che cosa? Ma dai, fa ascolto. Cosa fa ascolto? Il drone che bombarda e uccide. Il drone mira in realtà. È la realtà, naturalmente. Allora, che c'è? L'evoluzione, naturalmente, dovrebbe essere quella che stiamo studiando con gli amici americani. Naturalmente, cioè, che c'è tra gli amici americani? Di fare una nuova grande trasmissione in cui la gente da casa, naturalmente, decide chi e cosa bombardare. Ah, questo è interessante. Sì, sì. Cioè, superare i capi di Stato. Oltre. L'intermediazione, il capo di Stato, ma quale? Ognuno di noi può decidere. Cioè, voglio bombardare da casa, la tecnologia russo, lo permette. Russo. La piattaforma Freccero potremmo chiamarla, naturalmente. Dai, belle. Freccero. Ma quanto che Netflix, Amazon, Freccero, dai. C'è la gente da casa televisiva. Io naturalmente sforno un format al giorno, naturalmente. Questo quando va bene uno all'ora, naturalmente, calcolando che sono 24 alle ore. Fate voi i conti quanti format posso sfornare all'anno e quanti me ne hanno presi di altro questi che format? Renzi, altri che nessuno, Renzi. Naturalmente. Ci rende colpa un complotto. Ma è stato lui a bloccare la Rai tutto. Beh, Italia morta, non viva, morta. Però scusi, Freccero, io voglio capire una cosa, ma questo nuovo format, per esempio, che lei ha sfornato nell'ultima ora con il drone, come funziona col drone? Naturalmente ci stiamo ancora lavorando. Beh, naturalmente, sì, perché però c'è la piattaforma Freccero che piattaforma decide Freccero, le persone, se un drone... da casa, sì, naturalmente, persone da casa, naturalmente, sì, devono decidere chi attaccare, come attaccare. Dal telecomando ci sono i morti, casa, però poi ci sono i morti. Naturalmente la vita è piena di morti, naturalmente, la vita è... cioè si vive la e realtà, si muore, naturalmente, la realtà. Perché non si muore, secondo lei? C'è corpi maciulla. Ma perché si muore? Ma cosa racconta? Ma che la gente non muore, naturalmente. Corpi maciullati. Raccontiamolo. Corpi maciullati in diretta. Devi raccontare, fa ascolto. Mi sa che non l'ha accettata questa cosa. È una cosa vergognosa. Non ho neanche voluto ascoltare. Appena provato a dire, naturalmente, la possibilità di fare una guerra in diretta con la piattaforma Freccero, mi hanno sbattuto fuori da lei. La vera cosa è vergognosa. Naturale, hanno paura, naturalmente. Sono ostaggio dei partiti, naturalmente. Neanche grazie. La Lega mi ha difeso su questa idea meravigliosa, naturalmente. Nessuno ha avuto il coraggio, naturalmente. Tutti bravi lì a twittare. Salvini subito ha twittato: viva la guerra! E di Trump sono venuto da lui. Non ha voluto, però ha paura anche lui. Dai, conigli. Grazie, Freccero, per questa nuova idea. Per questa nuova idea. Intanto dalla parte dell'Iran c'è Rizzo, il comunista Rizzo. Rizzo Fusaro, torna tutto. Beh, anche una parte di quelli che sono della Meloni, cioè sono a favore del patriota Soleimani. Senti. Non è mai successo che ci fosse un numero 2, un numero 3 di uno Stato che venga ucciso con un atto terroristico. Pensiamo a Sarajevo nel 1914, che innescò la prima guerra mondiale. Ma non c'era la rivendicazione ufficiale di un altro Stato. Oggi è successa una cosa incredibile dal punto di vista del cosiddetto diritto internazionale. Se fosse stato ucciso e rivendicato dall'Iran o dalla Russia o da qualche altro stato, l'uccisione di Pompeo, l'uccisione di Colin Powell, ma sarebbe scoppiata immediatamente la terza guerra mondiale. Ma per forza, I politici destra, sinistra, centro, 5 stelle balbettano. Ma ti credo. Ma uccidi se una dittatura ammazzo leader della democrazia, è normale che scatti. Ma mi pare evidente, ma di cosa parlano questi qua? Allora, Capanna, tornato in campo Capanna, caro Parenzo, Capanna. Mitico Capanna, gli USA hanno una dottrina di stampo terroristico. Signor Capanna, amico mio, anche Capanna. La dottrina della guerra preventiva dottrina che fa a pezzi la carta dell'ONU. È una dottrina da gangster ed è una dottrina che si basa sull'assassinio. D'accordo? D'accordo. Allora, evidente d'accordo? Che è una dottrina d'accordo, di tipo terroristico. È un misto, con la Vanna Marchi. No, però Isola Solo, d'accordo? Però non ci sono, scusi Capanna, non ci sono quelle masse in piazza come un tempo contro gli USA. Non è più, il suo tempo, caro Capanna. Come lei, un momento, come lei lucidamente ricorda, io sono munito di un tesserino che mi consente ancora di viaggiare gratuitamente su tutti gli aerei e i treni dello Stato. Che cosa sto facendo? Sto organizzando un viaggio, naturalmente a spese dello Stato, in Iran. Ho visto che ci sono delle masse popolari in Iran in queste ore che si riversano in piazza. Milioni, magnifico, bellissimo, una grande rivolta popolare. Allora io che cosa farò? Avendo io questo tesserino parlamentare che mi consente di volare rapidamente senza pagare una lira, io andrò in Iran e cercherò di coinvolgere queste masse popolari. Gli parlerò delle grandi battaglie che feci negli anni 70. Sì, ma lei, qui c'erano le Molotov all'epoca. Oggi lì abbiamo le armi. Naturalmente c'è un'evoluzione c'è stata nel corso degli anni. Ma naturalmente sono pronto ad addestrare queste giovani masse popolari iraniane e andare lì a trasferirmi, ovviamente a spese del governo iraniano. Per formare compagni e compagni sul territorio pronti ad attaccare il grande Satana, naturalmente. Sono a disposizione. In Italia hanno ignorato i miei appelli. Vado nelle università, non mi riconosce anche più nessuno. Anche le sardine mi sembra che l'abbiano un po' stoppata. Gente totalmente inutile, inerme. Sì. Non c'è stato uno scontro di piazza con la polizia. Sì. Gente che sta ferma con un cartello del cazzo dicendo abbasso Salvini. Ma quale abbasso? All'assalto, all'attacco. Negli anni 70. Sì, certo, Salvini non avrebbe parlato in quella piazza e invece lo hanno fatto parlare. Sì, e tutti dicono le sardine, ma le sardine niente, le sardine devono venire da Mario Capanna belli. Farli scappare con la coda tra le gambe. Dovevano scappare gli uomini di Salvini, scappare con la coda tra le gambe. Erano formidabili quegli anni, come scrissi in un memorabile libro. Formidabile, sempre a spese dello Stato, sempre da parlamentare europeo, consigliere regionale. Vorrei ricordare quello che sono stato. No, parlamentare europeo, consigliere regionale, parlamentare della Repubblica Italiana, quindi tre incarichi: consiglio regionale, parlamentare europeo, ma ci mancherebbe altro. Le lotte vanno pagate, allora, caro ragazzi. Grazie Capanna. La Gruber, senti la cazzata, Parenzo, della Gruber. Pur di fare pubblicità al libro che ha scritto sulle donne, sul potere femminile, dice di Trump le peggio sono cose, le sue dice idee. No, per carità, sono assolutamente le sue idee. Sì, che cazzo c'entra? È come sarebbe come se tu dicessi Parenzo parla del libro di Falsari edito da Marsilio, costo 18 euro. Ma è evidente che Parenzo parla di Falsari, crede in quello che ha scritto. Sei veramente un marchettaro. No, ma anche l'ottima Bortone, che oggi ha fatto vedere il mio memorabile libro nella trasmissione quello è servizio pubblico, ad esempio. Quando ha mostrato il mio libro, quello è stato un classico esempio di servizio pubblico. No, però scusami, la Gruber dice la leadership maschile è aggressiva, violenta e volgare. Ma ti rendi conto? Cazzo c'entra? È la tesi del suo libro. Ma è una puttanata. Ma che c'entra leadership maschile? A parte che in queste ore quello lo sta buttando il culo a tutti. In culo a tutti quelli che prevedevano la terza guerra mondiale. I grandi esperti, io non sono un esperto, infatti non ho detto nulla. Ma quelli che prevedevano la terza guerra mondiale, io ho detto la catastrofe, l'Iran con la coda tra le gambe, addirittura forse, non so se è vero, ha avvertito che stavano per sparare su Baghdad. Questo con ha detto la coda CNN. Tra le gambe. Questo ha detto la con CNN. La coda tra le gambe di fronte a quel gigante che è Trump. Ma questa, lasciamo perdere questa roba. Beh, qua non è Trump. La terza guerra mondiale non è successo un cazzo. La terza guerra mondiale non è successo una sega. E quelli che dovevano sfracellare il mondo, l'America, hanno avvertito prima di sparare. Vergogna. Aspetta, la Gruber, la leadership maschile è violenta e volgare. Ma lei che cazzo farebbe al posto di Trump? Cosa farebbe? Nulla, zero. A parte che le leadership femminili, quelle storiche, sono state le più guerrafondaie della storia del mondo, diciamo. Se proprio vogliamo andare la dottoressa Golda Meir, la dottoressa Golda Meir, ad esempio. I fucili in mano, ma giustamente. La signora Golda Meir fece delle grandi operazioni memorabili da un punto di vista politico. È una leadership che ha una concezione del potere, che è una concezione che non può far funzionare il mondo, perché è contro perché? Le regole della diplomazia, è contro le regole del multilateralismo, è contro le regole del dialogo, è contro le regole della gentilezza. Ma possiamo avere tutti i leader, i leader che gestiscono il mondo, che non sono in grado di dire una cosa che non sia detta in tono aggressivo, in tono violento, in tono volgare? Ma può funzionare il mondo secondo voi così? Cazzo dice la gente? Ma tu con gli iraniani vai dai Soleimani con la gentilezza? Ma dico, ma la gente è impazzita, quelli la gente che applaude in studio e Floris che dice: perché secondo te? Ma che cazzo vuol dire la gentilezza con i terroristi? Ma vergognatevi di quello che dite. Non parlava dei terroristi, non parlava dei terroristi. La leadership, sì, si riferiva a Trump. Ma c'è un'idea. Adesso io capisco il tuo imbarazzo. Capisco il tuo imbarazzo. Perché non hai letto il libro. Il tuo forte imbarazzo. Perché non hai letto il libro. È la tesi del suo libro. Io penso, io ad esempio, io non penso che la gentilezza in questo caso c'è. Ecco, appunto, bravo. Fuori dal coro, ne vedremo di tutte stasera. Dove cominciamo? A Zanzara. I am the light in the darkness. D'accordo? Your friend. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Godo come un riccio, godo. Godo come un riccio. Godo. No, vabbè, ma Parenzo Fusaro sull'Iran è veramente il massimo. Cioè, quando minchia la tigre si attacca così, cioè noi ci affezioniamo. Quando tu aggredisci Parenzo, quel turbo nazi coglione di Fusaro, noi ci affezioniamo. Grazie tigre. Comunque il buon Mattarella potrebbe sostituire il nostro ministro degli esteri, che non sa manco parlare in italiano, con la Morellato. Cioè la Morellato ne sa tantissimo, l'ha dimostrato, e poi sa l'inglese, ragazzi. Cioè volete mettere quella con, mi ricordo manco il nome di Di Maio, dai, per favore. D'accordo? D'accordo? D'accordo? D'accordo? D'accordo? Bellissimo quello dice, d'accordo? D'accordo? Perfetto, ma mi segnalano che hai combattuto con un giornalista iraniano. Cioè, sì, assolutamente. Stamattina un signore che si chiama Abbasi. Ma no, ho fatto semplicemente. Adesso lo farai sentire, mi fa molto piacere. È una delle poche trasmissioni che rimanda in onda quello che i conduttori dicono in altre trasmissioni. Esatto, no, ma per introdurre la questione, che magari è interessante. La questione. Solo per dire, questo simpatico signore per un'ora continuava a parlare dell'Iran. A un certo punto faccio notare agli astanti, cioè ai presenti, che il signore che stava parlando è un signore che parla da una TV di regia. Quindi era ovvio che come dicesse l'Istituto Luce, sì, quindi gli ho fatto uguale, gli ho fatto notare che se lui dicesse che l'Ayatollah Khamenei è un coglione, verrebbe incarcerato. Questo è il punto. Tutti ma come? In realtà è questo. Mi dispiace dovervi rompere le uova del paniere, è così. Ma quello è un regime, quello lì. È la TV è del regime. Se in Rai uno dice che Conte non è un bravo, non viene incarcerato. No. Se in Rai all'epoca di Salvini uno dice che Salvini può essere accantonato, ma non viene incarcerato. No, ecco, in Iran viene incarcerato. Aspetta, ma non potrebbe nemmeno esistere in Iran, in realtà. No, qualora dicesse una cosa simile, impazzisce in televisione, dice una cosa del genere, lo porterebbero via subito, dopo due minuti. Subito. Tanto diciamo che in Iran si vota ogni anno e chiamare il regime non credo sia carino e gentile. Comunque, io volevo fare. C'è un signore che si chiama Ayatollah, non è che voglio dire, non è che lo dico io, è un Ayatollah, un signore che voglio dire, è una teocrazia riconosciuta. Adesso che quella sia una democrazia figlia di Einaudi, mi pare una roba un po' curiosa che si possa sostenere. In Italia. A un certo punto dice: in Italia c'è il Papa. Ma che cazzo vuol dire? A me lo dici che c'è il Papa. Poi tra l'altro che vuol dire? Papa in Vaticano. Come te, no, no. Il giornalista iraniano. Ma che cazzo dici? La pensa come te. Ma se ti ho appena detto che è un coglione, ma che dici? No, c'è il Papa come te, ce l'ha col Papa. No, ma io ce l'ho col Papa, certo, per altri motivi però, cioè. In Italia c'è anche il Papa, gli uomini di religione, ma di qualsiasi religione vanno rispettati. Dai, ma mica per cortesia, dai. Aspetta un attimo. No, scusami, Daivu, però importante. È ovvio che in Italia c'è il Papa, ma il Papa non è che ha un potere politico, però questo lo dobbiamo dire. No, perché non si possa dire che l'Iran è un regime, mi sembra una follia assoluta. Oh, a proposito del Papa, ti pareva che il signor Bergoglio una volta a settimana, almeno una volta a settimana, deve parlare di migranti? Cioè, se non parla di migranti che arrivano da accogliere, se non parla di migranti da accogliere, se non parla di questo, non so, sta male. Cioè, gli viene non so, un fremito. Non riesce a non parlare di migranti. Ma bisogna accogliere i naufraghi dalla disumanità e dal gelo dell'indifferenza. Ma cosa cazzo vuol dire? Ma siamo d'accordo, la gente che muore va salvata, ma siamo d'accordo tutti, nessuno è contrario a questa cosa. Anche se tutti nel vostro privato ve ne fottete anche di quello che hanno trovato dentro un aereo lì morto, bambino, poveraccio. Beh, terribile in Francia. Storia. Voi, dentro di voi, l'avete letto, vi siete indignati per un secondo. Beh, no, pensateci, cioè, pensateci bene. Era sì, certo che era raccapricciante. Cioè... Ma chi l'ha portato? Quali sono le cause? Perché quello la guerra, è finito dentro quell'aereo? La voglia di scappare. Va bene. La libertà. Sarebbe lunga, però. La libertà. Pensateci, la libertà. No, ma pensateci un attimo. Avete letto sulle homepage dei quotidiani questa notizia pura, semplice, secca, no? Vi siete indignati per un attimo, avete provato qualche brivido e poi basta, poi avete ricominciato a fare i cazzi vostri esattamente come prima. Questa è la realtà, è la descrizione della realtà. Bergoglio. Chiediamo oggi al Signore di aiutarci a vivere ogni prova sostenuti dall'energia della fede e ad essere sensibili ai tanti naufraghi della storia che approdano esausti sulle nostre coste. Perché anche noi sappiamo accoglierci con questo amore fraterno che viene dall'incontro di Gesù. È questo che salva dal gelo dell'indifferenza, dal gelo e della disumanità. Dalla disumanità. Perché il Papa, il signor Bergoglio, ogni tanto non fa una bella, magari l'ha fatta, io non sono particolarmente informato sulle evoluzioni vaticane, una bella filippica, una bella cosa chiara contro i trafficanti di esseri umani, contro chi traffica in esseri umani? Ma i trafficanti, io voglio sapere, recuperatemi una cosa di Bergoglio feroce contro i trafficanti di esseri umani, quelli che poi sono all'origine di questa vergogna. Dai, forza, all'attacco Bergoglio contro questi qua, giustamente. Michele da Milano, vai Michele. Sì, aspetta, le volevo ricordare prima che mi mandi al fanculo. Vai Michele, tranquillo. Ecco, vai. Vai. Allora, dunque, io volevo parlare di un argomento che è il seguente. Te, di questi anni, in bagno. Il bagno, sì, il bagno è molto importante perché in bagno vanno tutti alla fine, dai manager qui del Sole 24 Ore, dagli industriali agli operai, al Papa, sicuramente anche il Papa cagherà, no? A Vittorio Feltri, Vittorio Feltri ci va. Per esempio, il Papa in quale bagno fa i suoi bisogni? Il Papa, sarebbe interessante capire. Ha problemi, non ha problemi, che tipo di cose fa? È interessante, comunque Michele, dimmi che cosa c'era. Sì, te fai un distinguo fra... Sì. L'asciugamano con cui ti asciughi faccia e le mani e l'asciugamano con cui ti asciughi il culo. Allora, questa è molto interessante la questione. Posso dirti la verità? Sì, naturalmente, certo che faccio una distinzione, però posso anche aggiungerti che spesso quando vado di fretta, quando non ho i miei pensieri, quando sono con la testa per aria, eccetera, qualche volta prendo quello che capita, se c'è un asciugamano qualunque, anche a casa di estranei, vado lì, prendo un asciugamano, lo odoro per un attimo, dico vabbè, sarà pulito e mi pulisco, ma penso che sia una cosa comune, Michele, no? Cioè... ma insomma, quando io vado a casa di amici non prendono quello vicino al bidet. Sì, c'è un rischio di fondo, faccia, però quando uno va di fretta, quando uno è sovrappensiero, eccetera, alla fine prende quello che c'è sotto mano, non è che stai lì a distinguere tra gli asciugamani di un certo tipo. Adesso ne prenderà tre, ne userà tre, uno per ogni cosa del corpo. Tu che fai? Tu distingui naturalmente quello del bidet, quello del viso, della doccia. Sì, scusate se io lo faccio distinguere. No, ma anch'io, ma di fondo lo faccio pure io. Chiedo però scusa. Quando si va di fretta alla fine, no, non si va di fretta. Si può anche pescare così a casaccio. No, non si può pescare a casaccio. Tipo quello utilizzato da altri, cioè non è normale, cose normali, assolutamente. Per esempio, quello per il bidet, no? Ma quello che c'è, c'è alla fine. La classica strofinata che ti fai, uno si fa il bidet, poi ti fai la classica. No, dopo ti devi un po' pulire dall'acqua che è rimasta. Vai lì, boom, prendi la prima cosa che capita sotto mano e vai. Michele, che fai? D'accordo. No, io distingo, sì. Perché ma allora, scusa, se distingui, se sei così precisino, che cazzo hai chiamato a fare? Non ho capito. Cioè, te sei così... Per la curiosità, no. Come no, fai guarda, te, ti assicuro. Allora, hai ragione, Michele, una bella domanda. Quando uno va lì ed è con la fretta di avere il sedere bagnato, ti devi asciugare, la prima cosa che vedi sulla tua sinistra, di solito è così, o sulla tua destra, naturalmente, nel bagno, prendi e metti sotto là, ti asciughi e via. Fermi tutti. D'accordo. Ehi, è il momento del Dub Party! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, che fai, non ti scateni? Dobbiamo festeggiare, perché da

Elia, camionista, fascista. D'accordo? Ciao Giuseppe, senti una cortesia, io volevo sapere se scoppia la terza guerra mondiale dal demone scimmia o dal mago Telma, se ci possono dare qualche notizia, perché io comunque ho dei soldi da parte. Ecco, se le cose stanno così io vado in Svizzera a sputtanarmeli al volo, Svizzera o Austria, insomma in qualche posto dove comunque me li posso spendere come dico io e poi vaffanculo, tanto moriamo tutti. Ciao. Perfetto. Allora, caro Davide, ho letto oggi con grande interesse un articolo uscito sul Corriere della Sera che descrive... No, perché io ogni tanto ma online, tutto online, io di carta online. Non leggo più un cazzo, no, tutto online. Beh, fai tutto fallire online. Gli editori, bravo. Ma non me ne frega un cazzo, fallisce chi deve fallire di solito, il mercato io è così. Io li compro fallisce tutte le mattine. Fallisce chi deve fallire. Io compro tutte le mattine la mazzetta. Non cambierà nulla però, se uno fallisce, io contribuisco, a prescindere da Parenzo, io però, fallirà. Tutte le mattine compro la mazzetta, vado all'edicola e compro la mazzetta di giornali. Ma chi va online, io dico, ma vaffanculo. Ma con tutti i privilegi che hai, da assunto. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Milionario di metti in ginocchio le aziende editoriali che ti danno da lavorare. Senti, chiusa parentesi. Esatto, chiuso la parentesi. Un articolo molto interessante sulla questione della cocaina a Milano, no? Cioè, perché è interessante questa roba qui? Prima ti leggo un passaggio, perché in realtà mi è venuta l'idea che in realtà di fronte a quella che è la descrizione dei fatti, alla fine la legalizzazione mi sembra una cosa buona e giusta anche della cocaina. È difficile, lo so, però bisognerebbe legalizzare anche la cocaina, amico mio. Ti leggo un passaggio. Non mi spingerei mai un numero di telefono, un centralinista che smista le chiamate, una rete di cavallini già in strada. Magari molti che ci ascoltano già sanno queste cose. Ciascuno con una zona di competenza e con in tasca 15 dosi di cocaina da vendere a 30 euro ciascuna. Il compenso di ogni cavallo incaricato delle consegne, porta a porta, è prestabilito. 3 dosi ogni 15 consegnate. Al pusher restano 90 euro, oppure può tenersi le 3 dosi e pipparsele per conto suo. Così si risolve il problema della cresta sulle consegne, della droga che sparisce. Eccola qui la Milano della Coca Delivery. È come la pizza, è come la consegna della pizza, la più grande, redditizia, invisibile industria criminale del capoluogo lombardo. Un sistema che ha cancellato lo spaccio in strada, riservato ad alcune zone della movida, sempre a pusher stranieri, ma che in realtà è marginale. Ha fatto anche sparire la cocaina dagli occhi dei milanesi, sembra che non ci sia spaccio. Cioè, quella che era una volta la Coca City, oggi la Bamba è un'emergenza inesistente, cioè nel senso che non si vede, se ne parla pochissimo, ma la diffusione è aumentata grazie a questa sorta di enorme operazione di marketing criminale. Cioè, l'acquisto della Coca non passa più dai fortini della mala, ma da un numero memorizzato nella rubrica, che può essere Gianni, Frank, Natalino, numeri che cambiano, eccetera. Questa è la realtà. Di fronte a questa roba qui, che dobbiamo fare? È impossibile sgominare, sì, ci possono essere delle operazioni, eccetera, ma alla fine non è che puoi sgominare questa roba qui, no? Quando ci sono tutti che pippano cocaina, è evidente che dove c'è un bisogno, dove c'è un'esigenza, dove c'è il mercato che chiede, alla fine il prodotto arriva, in qualche modo arriva, e poi uno può mettere una pezza, fare un'operazione, eccetera, ma di fronte a questo che bisogna fare? L'unica strada è legalizzare, e così togli un po' di soldi criminali. Io però partirei dalla droga leggera, amico mio, come sempre rilanciare la palla negli spalti. Va bene, dai, Davide, provincia di Alessandria, vai. Vai Davide, vai. Sì, buonasera. Cruzani, io volevo sottolineare il tuo approccio, che a mio avviso è ipocrita sul tema dei migranti, nel senso che tu dici che il Papa ogni giorno vuole parlare di questo tema per l'accoglienza, perché bisogna accogliere i migranti. Dici che questo è ipocrita e inutile. Ma no, ma non sto dicendo che è ipocrita. Non è che ogni volta, tra l'altro alcuni mi segnalano che una volta il Papa ha chiaramente condannato i trafficanti di esseri umani, non c'è dubbio, non lo mettevo in dubbio naturalmente. Ho detto semplicemente che non è che ogni settimana c'è un appello forte, vigoroso contro i trafficanti di esseri umani, che è la vera grande emergenza. Certo, il Papa fa sempre un appello all'integrazione, all'accoglienza, mi dà fastidio perché il Vaticano è un posto barricato, un posto dove ci sono le torrette, dove non si entra, dove non c'è un immigrato clandestino che sia uno clandestino, non ce n'è, non ce n'è, dai. Sono pieni di appartamenti, di enormi appartamenti, di enormi. Sì, sfrenato. Populismo sfrenato. Io non sono per la risposta accoglieteli a casa vostra, questo lo trovo fuori logica. Vabbè, allora... D'altra parte non possiamo nemmeno dire che in Italia questo tema dobbiamo lasciarlo affrontare a Checco Zalone, che va bene, fa il suo film. Se ne frega di Checco Zalone, va benissimo, no, se ne parla così per divertirci, sì. Non è che lo affronta Checco Zalone, ha fatto un film, se ne parla, arrivederci, grazie. Cioè, dare tutta questa importanza pure a un film, perché poi l'importanza, certo, è un grande film che parla a milioni di persone. Ma non c'è dubbio, però non è che ci sia un messaggio chiaro. Come là. No? C'è una presa per il culo. No, c'è un grande messaggio sull'italiano tipo, sull'arci italiano, ma i difetti di noi italiani, di destra e di sinistra. Certo, certo. Certo, sono vabbè. D'accordo con Parenzo. Ciao, ciao Davide, ciao, ciao, ciao, ciao. Giordano, amico mio, si è scagliato ieri sera e ha fatto bene contro la questione delle lemosiniere del Papa, te lo ricordi? Quello che andò a riattaccare la luce. Ma sta scoppiando il mondo e quello si occupa delle lemosiniere del perché Papa. Perché a Capodanno, che è successo? Ma non scoppia il mondo niente, perché questa terza guerra mondiale non c'è, no, non c'è, nessuno, non c'è. Ma c'è un mondo che ribolle. Sì, ma ribolle tante. Si sta ridisegnando il Medio Oriente. Allora, Giordano, se vuoi te lo ieri, spiego ieri Giordano si è scagliato contro questo, no, contro questo palazzo occupato abusivamente, dove sono andati quelli delle sardine. Giustamente si è scagliato contro gli occupanti abusivi che hanno anche organizzato una festa per Capodanno nel palazzo abusivo. Festa di Capodanno, meraviglioso. Nel palazzo abusivo. Tu hai fatto una festa nel palazzo abusivo. Tu sei andato da Vissani, hai scorgato la cena da Vissani a Capodanno e quelli vanno nel palazzo abusivo. C'è Vissani, che sei matto. Musica, cibo e alcol, tutto esentasse. Ma devo fare lo scontrino? Niente scontrino, neppure quando vediamo comprare biscotti alla marijuana. Un Capodanno giovane, frocio, libero e ribelle. Così veniva presentato sui social dagli organizzatori. Ma ho capito, è una notte di facili trasgressioni, dove la droga gira liberamente, anche tra i minorenni. E tra i corridoi incrociamo giovani ormai senza autocontrollo. Entriamo nei bagni e finiamo in mezzo a un giro di coca. Un giro di coca, l'inviato di Giordano, scusa, l'inviato nel di palazzo. Ha passato il Capodanno palazzo occupato abusivamente. Ma ho sentito bene o questo giornalista ha detto froci? No, perché era così che è stata presentata la serata frocia, figuriamoci. Dagli stessi organizzatori era stato presentato come un Capodanno frocio. Non è che lui l'ha detto Capodanno frocio, amico mio. A parte che se l'avesse detto io l'avrei difeso come libertà di espressione. Ovvio, ma tu beh, libertà di espressione. Libertà ma di tu avresti difeso anche Eichmann con la libertà di espressione. Se uno dice Eichmann. Capodanno frocio non è che dice Eichmann che sono definito una mignotta. Che c'entra, dai, su Cristiano da Milano, dai Cristiano dimmi. Giuseppe, dimmi Cristiano, dimmi. Sì, ciao, volevo fare un saluto a te e a Davide. Vabbè, non ce ne frega un cazzo dei saluti, dimmi. Quello ciao, grazie. E allora perché tutti saluti se non ce ne frega un cazzo? Se sai che non ce ne frega un cazzo, saluti. Buonasera, dire, grazie per aver chiamato. Dimmi. Come? Dimmi. Dicevo, siccome ieri Davide ha detto che i soldi pubblici di Fusaro devono essere utilizzati meglio, allora che è sbagliato che prende i 3.000 euro come finanziamento. Vabbè, è tutto. Io volevo capire lui come la pensa sul discorso della signorina Rula Gebrard. Questo è interessante, sì, sì, molto interessante. Che invece andrà a presentare il Festival di Sanremo. Gli artisti, no, in sarà televisione, no, tutti gli artisti ospite, ricevono un cachet tra come l'altro, ospiti tra l'altro, per andare. Tra l'altro, un gettone, signora Rula Gebrard, una cosa. Signora Rula Gebrard, pare che prenda. Io adesso non dico niente, perché va benissimo. Sono contento per lei, sono contento per chi la rappresenta. Sono contento per. Che, dove ci sono guadagni di soldi, per me fanno bene. Se glieli danno, è giusto che li prenda. Dunque, la colpa non è sua. Però, sinceramente, pare che prenda 25.000/30.000 euro. Ora io dico 25.000 euro, no, no, ma non è paragonabile. 25... Cioè, la Rula non è paragonabile in alcun modo a quel, uguale, a quel, a quel mestierante della filosofia. È uguale. In alcun modo. Allora, in alcun modo. Ma figuriamoci. Allora, 25.000/30.000 euro per avere sul palco dell'Ariston una signorina, certo, che legittimamente ha le sue opinioni anche molto forti contro spesso Israele. Contro Israele, va benissimo, ma non per carità. Quello, ma che c'entra per me? Va benissimo, non è quello il tema. Che una volta definì, credo che definì gli italiani un popolo di fascisti, razzisti, pure, eccetera, lei, o comunque israeliana, dove il fascismo sta crescendo, c'è il pericolo del fascismo. Ma chi se ne frega, i cittadini israeliani? Non mi interessa che è cittadina israeliana, potrebbe essere pure cittadina del Congo, non mi interessa né il colore della sua pelle. Io sto mi concentro su quello che ha detto. Noi daremo 25-30 mila euro a una persona che, se fosse successo dall'altra parte, che non so, una persona che si scagliava magari contro non so chi, avrebbero fatto le barricate. Guardate, invece adesso, siccome è cool, siccome fa parte del mondo cool. Ma quale mondo? Ma come cool? No, fa parte del ma mondo state cool. State linciando. Prende 25.000-30.000 euro per stare, forse da quello che leggo, per stare, e va benissimo, per stare sul palco di Sanremo a parlare delle donne in Arabia Saudita, eccetera, eccetera. Io dico questo, vostri soldi, 25.000-30.000 euro, per stare a fare lì il sermoncino, giustamente, sulle donne in Arabia Saudita, sulla violenza nei confronti delle donne, eccetera. Fosse successo dall'altra parte, una persona che ha delle posizioni chiare, anche estreme, dicendo che in Italia c'è il pericolo fascismo, eccetera, se fosse successo dall'altra parte, cioè un esponente, diciamo, dell'area di destra, che invitata a Sanremo, sul sarebbe successo l'inferno. Vabbè, se uno avesse fatto l'istigazione al razzismo, se uno avesse fatto manifestazione di razzismo al festival di Sanremo, certo. Fermo, ma che c'entra? Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Questa canzone è dedicata a tutti i bambini cui i genitori hanno una Jeep e che vengono portati a scuola anche quando fuori c'è una bufera di neve. Siamo con voi, ragazzi. Non tutti i genitori guidano una Jeep. Solo a gennaio, zero anticipo e zero interessi. Jeep Renegade, da 249 euro al mese. Jeep Compass, da 299 euro al mese. TAN 0 TAIG 1,31. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info e condizioni su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica. Jeep, there's only one. Con Preatoni Nuda Proprietà, l'operatore specializzato nella compravendita di nuda proprietà immobiliare, puoi partecipare al suo modello di business sottoscrivendo quote di Preatoni Nuda Proprietà Crowdfunding sulla piattaforma MamaCrowd. Visita www.preatoninudaproprietà.it oppure www.mamacrowd.com per scoprire i dettagli. Con Preatoni Nuda Proprietà, la casa ha un nuovo valore. La Zanzara. C'è gente che grida lupo, lupo, lupo e sono i primi che ci siamo capiti. Io amo l'Italia, sono un nazionalista. Look out. Amo la mia patria. Prima gli italiani. Italian first. First. Si scrive ma si dice first. Ho parlato con Boccia, ha detto che la moto va a fanculo. D'accordo? Quanto mi ha fatto godere Sgarbi. Gottardo. Un minorato mentale, un qualunquista. Ti ha detto solo la verità. Grande Gottardo, ammazzalo quel cretino di Sgarbi! Ammazzalo! Ho saputo che lo Sgarbone ha rinunciato a fare la pupa e il secchione per concentrarsi sulle elezioni regionali. No, è legge. A questo punto, Gottardo, ti rendi conto che responsabilità politica ha il prof? Tu hai visto che razza di fighe ci sono in quel programma? Che razza di fregne atomiche ci sono in quel programma? Lo Sgarbone ha rinunciato alla figa per responsabilità politica. Quindi che cazzo dici, Gottardo? Che cazzo dici? Non è proprio per responsabilità politica, insomma, non è quello, è che la legge purtroppo impedisce a Sgarbi, che è una follia, di stare in televisione nello stesso tempo di essere candidato, di essere in televisione in un programma di intrattenimento registrato prima. Ma la realtà è questa, che c'è stata una sollevazione popolare a favore di Gottardo per lo scontro con Sgarbi di lunedì scorso. Gottardo intigna, insiste, dice per esempio che Sgarbi è ospite del comune di Cadone, anche a me messaggi, no, ospite del comune di Cadone, che è provincia di Padova, e prende praticamente 3.000 euro di Sgarbi, diciamo, se li merita, ottimo di prestazione. E lui dice: un parlamentare della Repubblica che si fa pagare da un comune, che cazzo c'entra? Lì va a fare una prestazione sull'opera d'arte, certo, l'altra certo. del Novecento. Ma io non è che parla, parla non di è politica, che ce l'ho dai. Col comune di Siena perché paga Fusaro. Ce l'ho con la sua ipocrisia, però, di chi dice, di Fusaro, che dice sempre agli altri: prezzolato di qua, prezzolato di là, poi viene pagato da una giunta di centrodestra per fare il suo show su Bibbiano. Ma questo che no, c'entra? Io, non l'ho, io credo che i comuni abbiano anche il diritto di usare dei fondi pubblici per fare. Quanti soldi i comuni danno? Dopodiché hanno usato il fondo per i minori. Hanno usato, ma chi se ne frega? Non mi risulta, questo non mi risulta in alcun modo. Ma no, ma gente, questo non mi risulta in alcun modo. Ma è pieno dei comuni amministrati della sinistra, soldi dati a. Legittimamente a delle associazioni che fanno più o meno dell'area di sinistra della galassia di sinistra per organizzare qualsiasi cosa. Ma no, ma è stato la realtà dei fatti, come nell'amministrazione di destra lo danno ad associazioni a loro vicini, è normalissimo. Una cosa incredibile, come confondi. Io non darei soldi a nessuno, per cui a me lo dici, io non darei soldi a nessuno, a nessuno. A nessuno, tu solo a te stesso, incasseri solo tu, solo tu. Nemmeno a me soldi pubblici non ne prendo io, per cui di che parliamo? Che da dimostrare questo, lo dimostrerai. Ma no, non ne prendo. Non è tutto da dimostrare. Comunque voglio dirti una cosa ancora su Luca Cebreale. È come se uno avesse invitato al Festival di Sanremo Maria Giovanna Maglie, dall'altra parte la stessa cosa. Beh, ora no, tu mi dirai, ma stai scherzando. Dal punto di vista estetico può essere diverso, ma diciamo, una è una signorina graziosa, l'altra è una signora un po' più attempata. Ma tu stai ma il problema scherzando. È un altro, è la stessa cosa. A te piace più quella alla a me io adoro Maria Giovanna Maglie, ma è la stessa cosa, hanno lo stesso ruolo, sono persone che sono tra virgolette ingaggiate, hanno le loro idee da una parte e dall'altra, non sto accusando nessuno. È come se avessero invitato al Festival di Sanremo, pagandola 25-30 mila euro, Maria Giovanna Maglie. È la stessa identica cosa. Avrebbero fatto un casino tremendo o no? Che cosa sarebbe successo con Maria Giovanna Maglie a parlare, che cazzo ne so, delle donne cristiane uccise, dei cristiani uccisi? No, poteva essere credibile. Perché? Maglie, perché Maria Giovanna che cazzo cose, è una donna di spettacolo, non ho capito. Maria Giovanna Maglie, ma a te non piace? A me fa simpaticissimo. Ma ho capito, Giovanna a te non piace quello che dice, come a tanta gente non piace quello che dice Luca Cebreale. Ma che differenza c'è? Quando doveva ma fare che la trasmissione, c'è? Figuriamoci. Ma che differenza adesso c'è? Borgonovo vuoi dire che differenza c'è? Borgonovo, metti Borgonovo al Festival di Sanremo. Più o meno uguale con la Luna Cebreale, uguale. Ma io tu ti ho fatto matto. L'esempio di una donna. Borgonovo al Festival di Sanremo. Ma certo, la prima serata Borgonovo al Festival di Sanremo. Certo, ma è uguale. Evitalo Borgonovo al Festival di Sanremo. Allora che cosa vogliamo dire? Che conta il fatto che quella sia una figa? Sì, certo, è figa. Conta il fatto che ha delle cose da dire che non fa, che gli altri non hanno cosa dire. Non fa fumetti violenti come quell'altro. Ma questa è la tua idea, ma guarda che siamo nel campo della del gusto, delle opinioni politiche. Il gusto. Io ti sto dicendo di invitare la Cebreale. Il razzismo diventa un gusto. Io sto dicendo una cosa: invitare la Cebreale a Sanremo, Rula Cebreale, è come invitare Maria Giovanna Maglie. È la stessa cosa. Se Maria Giovanna Maglie fosse stata invitata in tempo di sovranismo con un governo 5 Stelle Lega a Sanremo a parlare delle uccisioni delle dei cristiani nel mondo, sarebbe successo un casino infernale. Ma perché Rula Cebreale è diversa da Maria Giovanna Maglie? Non ho ma capito. In tutto no. È diverso. Ma cosa? Perché non ti piace a te? Perché ti ma figuriamo. Vabbè, allora è diversa, va bene. Abbiamo capito che è diversa. Cosa è diversa fisicamente, certamente quella è più carina, più cool. E l'altra è una signora con un po' più di anni. D'accordo, ma che differenza c'è? È uguale. Lei, diciamo, ha le sue idee, l'altra ha le sue idee. Sono due idee. Certo, assolutamente. Io sono molto, io sono d'accordo spesso con quello che dice Maria Giovanna Maglie e non sono d'accordo con quello che dice la signora Cebreale. Ma è la stessa cosa, tu sei d'accordo con quello che dice la Cebreale e non sei d'accordo con quello che dice la Maglie. Ma dal punto di vista della personalità è la stessa cosa. Ma per te sono incredibili, è la stessa cosa. Giuseppe D'Aragusa, dai. Lei poi chiama Giuseppe D'Aragusa. Che senso ha l'ascoltatore? Chiudi la trasmissione. Ma che chiudo, sì. Tutto in polemica, sempre aggressività, questa musica sotto, la gente che chiama, insulta, Giuseppe, dai, sentiamo Giuseppe. Dimmi. Buonasera a tutti, io sono contrario alla legalizzazione delle droghe, la qualunque, leggere, pesanti. Vi dico che ci sono dei principi che dobbiamo rispettare ed è giusto che ci siano, altrimenti saremmo dei cani a briglia sciolta. Dopodiché, ma quali sarebbero questi principi? Non ho capito. Ma bisogna che la droga sia combattuta. Ma cosa vuol dire combattere la droga, cretino? Ma questo siamo d'accordo, le forze dell'ordine siano benedette, le forze dell'ordine sempre ho capito Giuseppe, le forze dell'ordine fanno il loro mestiere, ci sono delle leggi da applicare che sono contro lo spaccio e giustamente le forze dell'ordine perseguono, puntano sugli spacciatori. È normale che sia così, le forze dell'ordine fanno il loro mestiere, le forze dell'ordine se cambiassero le leggi non starebbero dietro dietro magari lo spacciatore di strada, sarebbero dietro ad altre cose, forse sarebbe meglio, quello dico io. Cosa c'entra combattere la droga? Ma che sei, Gasparri, che dice bisogna combattere la droga è un male comunque, ma non è vero che è così, non è così. Spesso si può combattere la droga legalizzandola, per esempio, nel caso di alcune sostanze, forse anche della cocaina. Cioè, qualcuno è in grado di fermare quello che succede a Milano, dove basta un numero di telefono, ma ormai danno per appropriarsi e per prendere una dose di cocaina, altro che Bosco di Rogoredo, non è un cazzo rispetto a quello che succede nei posti, no, della gente col colletto bianco. Dai, su, Lorenzo da Firenze, dai Lorenzo. Ciao, buonasera. No, infatti io volevo di tutto il contrario di chi ha detto il signore di prima, che secondo me andrebbe legalizzata appunto la marijuana completamente, anche ad uso appunto lì. Vabbè, tu sicuramente sei uno che si fa dalla mattina alla sera, perché si sente un po' dalla voce. Questo... La voce un po'... Sì, se non so, se ci fa insieme, non lo so, magari ci può stare, però no, mi dispiace, ti sbaglio. Quante canne te fai, Lorenzo? Ma no, per ora punte, forse inizierò, mi piace stare. Cioè, non ti fai manco una canna, manco una canna al giorno, non ci credo, guarda, non ci posso. No, però secondo me andrebbe legalizzata. Ma amico, ti ho detto. Ah, vabbè, però secondo me andrebbe legalizzata, anche perché basta vedere gli ingressi che hanno in cassa già questi negozi con la legalizzazione del CBD. No, ma la cosa incredibile poi è che ogni volta che mettiamo che buttiamo giù questo argomento, che mettiamo in piazza questo argomento, c'è una maggioranza di italiani, almeno io da quello che percepisco, che è chiaramente a favore della legalizzazione della droga. Sì, ma quello c'è. Ma, proprio, ma io penso l'80%, sai. Non lo so, l'80% non lo so, perché poi presenterebbero la cosa come la gioga, capito? La liberalizzazione della gioga. La gioga fa male. Cocaina, ma certo che la droga fa male. Ho detto la droga leggera, le canne. Ciao, Lorenzo. Ciao. Ciao. Comunque, ragazzi, giustamente mi scrive, sì. non posso dire il nome, Roberto Duplicato, che è un bravo giornalista. Come, lo conosco benissimo, sì. Non posso dire il nome. Che ti scrive? Roberto Duplicato, di cui non posso dire il nome. Vabbè, dai, siamo in diretta? Sì, scusa. Sì. Che dice: la Cebreale è un personaggio del grande spessore internazionale, la maglia no, mi sembra evidente. Che cazzo dici? È una motivazione, no, è un personaggio del grande spessore internazionale. Ma che cazzo dice pure Duplicato? Meno. Bravissimo. Ma cosa dice? Ma è una stagiaire numero uno. Ma non lo so, non mi interessa quello che è. Va benissimo, lo conosco, mi sta simpaticissimo ed è bravo, non è quello il punto. Ma cosa c'entra che quella è un personaggio di grande statura internazionale? Non c'entra una beneamata sega. Cioè, la maglia è una giornalista, ha la stessa posizionamento solo dall'altra parte rispetto a Rula Cebreal. Se fosse stata designata per stare lì a parlare, che ne so, di un qualsiasi argomento, sarebbe successo un casino, l'avrebbero buttata giù dal palco, lanciata tipo una donna cannone. Invece al contrario, ogni riferimento è puramente casuale. Al contrario, la Cebreal è cool, è bella, simpatica e può pensare quello che vuole. Fino a un'ora fa l'avete attaccata. Ma io difendo la libertà d'espressione sempre. Dunque, per me va benissimo sul palco. Faccio notare che fosse successo con una donna del campo opposto, mettiamolo in questo modo, sicuramente non sarebbe stata difesa alla stessa maniera. Chiaro? Il concetto è chiaro o no? Dai, Daniele da Bologna, è chiarissimo il concetto, dai. Pronto? Dimmi, Daniele, dimmi. No, sono assolutamente d'accordo sul tema del fatto che la Cebreal sia una bellissima donna. Ma dai, anche per quello, ma è giusto che sia là. Ma è una fanatica. Una fanatica, non lo so, adesso una fanatica, certamente no, una... Ti ricordi come commentava le elezioni di Trump sulla 7 da Formica? Ma certo, per Trump l'ha descritto invasata, l'ha descritto folle, come un nazista. Fascismo, ma sì, ha usato le stesse parole che usa la sinistra americana. Che no, c'entra? Ma il Partito Democratico è sempre violento. Ma il Partito Democratico americano in queste ore... Daniele, ma non fare paragoni che non c'entrano un cazzo. Ma certo, Daniele sta dicendo una cosa precisa, come no? Dice che è un nazista, Trump, non è folle dire che è un nazista. La sinistra, ma chi se ne frega della sinistra americana? Scusami, la maglia, per dire, visto che parlate della maglia, non è mai... Ma no, maestro, questo non la maglia, è mai Badaria, la maglia mi dice tutti i colori, ma va bene quello che dice la maglia, va bene, ma quello certo che dice anche la Cebreal. Il punto è questo, che una fosse successo al contrario, sarebbe successo un casino, invece viene difesa da tutti perché appartiene al mondo che ma conta. Ma come no? Dai, su Ester, provincia di Milano, dai. Ma Ester, da provincia chi? Di Milano. Pronto? Dimmi, Ester, dimmi. Senta, dato che si sente tanto parlare delle case occupate, che bisogna prendere la ruspa, e il suo amico Giordano e Santini fanno un baccano tremendo, perché la casa Paum è anni che è occupata e tutti a piano FIFA, dato che adesso ci vuole l'attacco, la Ruspa, allora ci vuole anche la Casa Pau. Lucida, lucidissima. No? Scusa, brava. Esther, io sono il primo a dire che tutte le case abusive vanno sgomberate, per cui di che parliamo? Non mi deve fare la lezioncina a me, non mi faccia, allora non mi faccia lei l'antifascista la lezioncina a me, ha capito? Esther, ha capito? Lei, non rompa troppi coglioni a me, perché io sono contro l'occupazione abusiva. I coglioni non li dico la mia, come lei dice la sua. Sì, però non rompa i coglioni a me. Abbi rispetto della signora. Allora lei è amico di quei due personaggi lì. Ma io non sono amico di nessuno. Io sono amico più di Parenzo che di Giordano e di Salvini, glielo posso assicurare. Ma io non dico niente a nessuno. Appena che fanno un torto a una persona di destra, si scalda in un modo. Ma c'è uno di sinistra che dice mezza, fa un baccano tutta la sera. Scusi, ma lei che cosa fa parte della staffetta partigiana? Buonasera, di cosa fa parte della staffetta partigiana? Lei, tutto, brava. No, ti ha chiuso in faccia. Mette giù il telefono. Una combattente vera. Una combattente sta vecchia rincoglionita, mette giù il telefono. Ti pare normale? Ma vergognati per trattarla così. Comunque mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Richard, grazie Richard. Qualcuno mi ha scritto: io sono amico di Richard, stanno migliorando. Dai, diamo questo annuncio: la salute di Richard e di Esther sta migliorando. No, perché sono in due posti diversi, però li hanno separati. Sì, sì, assolutamente. Sono in due posti diversi, in due cliniche diverse, ma stanno lentamente migliorando. Io vorrei richiamare il nostro amico. Io penso amico... che sarebbe utile sentire, sai chi in questo momento? Marco Minniti. No, ma perché oggi una bellissima intervista alla stampa. Minniti ha parlato della crisi libica. La colta, mi butti giù il telefono un attimo, perché questo qua si è appassionato alla politica estera, non capisce che vada a parlare ad Agorà. Ti sei sfogato questa mattina ad Agorà con l'iraniano? Troppo poco. Ti sei sfogato? Cosa cazzo vuoi di più? Signor iraniano. Cioè, l'iraniano che mandava i matti, l'iraniano. L'iraniano che dalla TV di regime ti dà lezioni. Ma la fanculo, ma che ci no, gli ho detto così ovviamente, ma quasi. Avresti dovuto, ma sì, ormai. Ma sì, a un certo punto stavo per sbloccare. Quando tutti in studio, silenzio assoluto. Quello parlava, dice lezioni. la vendetta americana. Dico, ma scusi, abbiamo capito chi è questo signore? È un giornalista della TV di Stato iraniana. Ma è una cosa incredibile, nessuno gli diceva niente a questo signore. Allora, ragazzi, nei giorni scorsi abbiamo sentito il signor Tujak. Ah, tra l'altro in via Monterosa a Milano mi dicono che c'è il consolato iraniano. Di fronte qui c'è il consolato iraniano, sì. Agli amici del consolato, venite a salutare Cruciani. Attraversate la strada, amici del consolato iraniano. Stai calmo con gli iraniani. Scusi, signori iraniani. Domani potremmo fare una telefonatina, signori iraniani. Sono liberali, avete detto? Ha detto che sono persone liberali. Potremmo fare una telefonatina qui di fronte. Non so chi risponde, però, telefonatina io la farei al console iraniano qui di fronte. Io non scatenerei ulteriori. La terza guerra milanese, non mondiale. La guerra milanese. Allora, ragazzi, nei giorni scorsi abbiamo sentito il signor Tujak. Fabio Tujak. Ha detto che gli omosessuali se lo mettono nel culo, si sfondano il culo e dunque, diciamo, uno non è vero amore perché si sfondano il culo e litigano solamente tra di loro per la vasellina. E poi è venuto qui e ha detto ancora una volta che secondo lui sono ispirati da Satana gli omosessuali, mamma. Che lui ha capito come fanno sesso andando su YouPorn, perché prima non lo sapeva, forse ci sta pigliando anche per il culo. Ma secondo me non la pensa allo stesso modo delle lesbiche. Io glielo richiederei, lo richiamerei solamente per dire: ma le lesbiche, mamma mia, pensi la stessa cosa delle lesbiche, Tujak? Cioè, anche loro sono ispirate dal demonio? Che poi. C'è dietro Satana, anche dietro le lesbiche che si leccano la patata? Pronto? Scusami Fabio, sono sempre Cruciani, come stai? Oh cavolo, adesso sto guidando. Beh. Ma io sono affezionato, mi sono affezionato, che devo fare? Dai, mi sono affezionato da quando sei andato a cosa? Alla legione straniera, quando sei andato in Francia. Alla fine sono andato a Lourdes. Non alla legione straniera. Devi rimanerci lì, fare un bagno a Lourdes. Devi rimanerci magari. Vado là a pregare, prego tanto ogni giorno. Prega anche per noi, prega anche per noi. Non capendo un cazzo, magari quello serve. No vabbè, sono cattolico. Insomma, scusami Fabio, non è problema. Aspetta. Fabio, stupido, Fabio, scusami un attimo. Volevo capire da te, siccome tu hai detto l'altro giorno, ci hai detto delle cose sugli omosessuali, Satana, eccetera, e sull'atto omosessuale, no? Volevo capire. Quello per noi è satanico, per noi cristiani. Questo l'ho capito perfettamente. Però l'atto lesbico, che differenza c'è? Le lesbiche, pure loro, secondo te, sono ispirate da Satana. Questo è interessante perché l'atto omosessuale, cioè dire la penetrazione, eccetera, ci hai già spiegato che è una cosa contro la natura, eccetera. Non era neanche contemplato una volta dai nostri santi, era impensabile, anche perché la donna faceva faceva figli, non era, era impensabile una cosa del genere. Dal 68 in poi è cambiato un po' tutto. Purtroppo, dici tu, no? Ma lei ha mai sentito parlare della civiltà greca, ad esempio? Sa che all'epoca dei greci, sì, però, l'omosessualità... Tutto vero, anche la pedofilia, tutto giusto, però... Però? È arrivato Cristo, il salvatore dell'umanità, e ha scritto la storia. Ma l'isola di Lesbo, l'isola di Lesbo, lei l'ha mai sentita nominare nei suoi faraginosi studi? No, so che esistono le lesbiche. No, ma è la cosa che voglio capire, le lesbiche, anche noi, le lesbiche sono ispirate da Satana, questo che voglio capire da te. Dovete sapere, appunto, proprio lo spiegava il vescovo di Trieste. Sì. Che spiegava? Appunto, noi abbiamo... Cristo che è venuto a convertire, a dare la salvezza a tutti quanti, no? Chi crederà in lui. Sì. Infatti nel presepe abbiamo il bue e l'asinello che rappresentano i pagani da convertire e gli ebrei da convertire. Ma dunque, lei è l'asino. Aspetta, dunque? Lei è l'asino. Vabbè. Altro e dunque? No, questa vuole la nostra religione cristiana cattolica. Sì, ma che c'entra romana con le lesbiche? Spiegami, io voglio capire da te se anche le lesbiche sono accomunate dallo stesso destino. Ma questo ha sbattuto la testa da bambino, dallo questo ha preso troppi pugni in faccia. Aspetta, sto qua. Dallo stesso destino. No, non lo puoi troppo. Questa sto spiegando la cosa dice la nostra religione. Così i nostri santi erano molto omofobi. Santa Caterina da Siena, dottore della Chiesa Cattolica, è stata nominata dottore della Chiesa Cattolica da Paolo VI, quindi negli anni 60, e lei spiegava che il peccato contro natura, quello dei sodomiti, fa schifo anche ai demoni. Addirittura, penso che, addirittura. Questo diceva lei. Questa è stata ma voglio capire, dunque le lesbiche? E le lesbiche? Questa è stata nominata dottore della Chiesa Cattolica. Se vuoi essere cattolico devi seguire delle regole. Ti deve fare schifo la sodomia. Ti deve fare schifo la sodomia. Però voglio dire... Questa è la religione, purtroppo. È omofoba, non è colpa mia. Voglio capire le lesbiche, però. Perché le lesbiche non sono sodomia. Non c'è sodomia nel lesbismo. Cioè... Diciamo che era impensabile. Se gli uomini... Ecco, ma se tu vedi due lesbiche... Stanno con una donna, sono felici e sono tutti quanti felici. E se vedi due lesbiche, a te fanno schifo? No, non le ho mai viste, non mi interessa. Tu non le hai mai viste? Guarda, sono arrivato al casello, devo chiudere. No, un'ultima cosa, Fabio, un'ultima cosa. Al casello, in un reparto volta, psichiatrico sei arrivato, in un reparto psichiatrico, no, al casello. Fabio, scusami, se il mondo... No, se il mondo... un corno. Qui però secondo me si torna alla vecchia teoria del nostro amico comico marchigiano. Com'è che si chiama il comico marchigiano numero uno? Il monologhista marchigiano. Dai, l'amico nostro, quello che viene ogni tanto qua. Adesso non mi ricordo bene come si chiama. Dai, quello di... come si chiama? Quello Cassini, di Fermo. No, che c'entra Cassini, dai. Cioè quello di... Comunque vabbè, quello che dice sostanzialmente che poi di fronte alle lesbiche uno ha un atteggiamento completamente diverso rispetto agli omosessuali. Se immagini tuo padre, no? Immagini in questo momento tuo padre, con tutto rispetto qua per tuo padre. No, ma figuriamoci. Tuo padre insieme a una specie di orso ciccione, eccetera, tutto peloso, eccetera, che si inchiappetta. Cioè tu vedessi adesso tuo padre non ho immagini di questo tipo. Sì, io. Però se immagini abbiamo orrore di queste immagini. La tua malattia mentale ti deriva dal fatto che non viene in mente. Mi dispiace deluderti. Capisco che ti sto dando una grande delusione. No, non mi viene in mente. Però se tu immagini i nostri padri che si inchiappettano, proviamo orrore. Ma che ti devo dire? Non lo immagino. Due signori pelosi, grossi, pelosi, ciccioni che si inchiappettano, dici che schifo. Se vedi invece Giorgio Montanini, il quale dice spesso: se noi immaginiamo due signori pelosi, eccetera, che si inchiappettano, dice vabbè, cazzo, che schifo. Se invece immaginiamo due signore ragazze dell'est depilate che si leccano la figa, dice che cosa meravigliosa, che magari discorsi. Ci facciamo anche le seghe sopra. Ma questa è la realtà dei fatti. Ma che discorsi la realtà sono? È questa. Ma nel giorno in cui le generale lesbiche Haftar ci fanno meno impressione, ma che discorsi fai nel giorno in cui Haftar provincia era di Roma? Eugenio provincia di Chieti. Ma non è che la gente che sta in macchina in questo momento pensa è interessata a quello che ha detto il generale Haftar? Ma Conte. Non gliene frega un è cazzo. È interessatissimo. Tu ti rendi conto dell'importanza del generale Haftar che è venuto a Roma? Chi sta in macchina in questo momento? Non gliene frega un cazzo il generale Haftar. Beh, chi è a Roma? Sì, perché Roma è mezza bloccata. Lasciali divertire per 10 minuti. Roma è mezza bloccata e sapere Flaviano che c'è Monza, a Roma dai. Il generale Haftar interessa. Flaviano da Monza, dai. Flaviano, dimmi. Buonasera. Dimmi, dimmi. Senta, io credo che lei e il suo collega... Aspetta, Flaviano, però sento male. Sì. Io qua ho scritto medico... Dire... Sì, aspetta, aspetta un attimo. Vedo medico contro la legalizzazione. Io solo questo leggo qua. Per cui se tu aspetti un attimo, Flaviano, io ti richiamo, cerchiamo di collegarci meglio, perché sennò non sentiamo un cazzo. Fermi là. La zanzara. Colleghi, concludiamo il giro sull'ordine dei lavori. Deputato De Luca, sempre sull'ordine dei lavori, prego. La ringrazio, Presidente, ma semplicemente perché non è possibile tollerare ancora un simile numero e cumulo di bugie che vengono raccontate in quest'Aula. E ricordiamo semplicemente alcuni dati che poi possono essere interpretati da ogni cittadino italiano in piena coscienza e conoscenza. Il trattato è stato negoziato per mesi dal governo giallo-verde di cui era vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Per mesi interi! Per mesi interi! Dal dicembre dello scorso anno! Per mesi interi! È stato negoziato da voi! Dal ministro Tria! È stato negoziato! Per mesi interi! Per mesi interi! Dicembre dello scorso anno è stato negoziato da voi, dal ministro Tria, è stato negoziato per mesi interi. Minchia, come picchia De Luca. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. U.S. armed forces are stronger, stronger than ever before. Than ever Our before. Missiles are big, powerful, accurate, accurate, lethal and fast. I missili. Accurate. Fammi sentire questa cosa sui missili che godo. Our missile. Fammi sentire. Godo questa cosa sui missili. Beh, mi fa godere. Non c'è da godere, un po' mi fa godere sui missili. Io non sono ipocrita. Mi fanno godere i missili a me. Quando sparano i missili, un po' mi fanno godere. Che ti devo dire, dai? No, questo no. Questo no. US Armed Forces are stronger. Questo è forze armate. Than ever before. Our missiles are big, big, powerful, big, powerful, accurate, accurate, lethal and fast. Beh, se non c'è bisogno però di... Cioè, questo sembra questo il bambino... Però. Sì, ho capito, ma questo sembra il bambino, per quanto io condivida assolutamente l'operazione il suo modo chirurgica, di comunicare, la sua Trump, operazione dai. Chirurgica che è stata si fatta fa problemi, da, secondo da, per fortuna. Sì, no, questo le cose adesso... le diceva, gli altri sparavano i missili senza dire queste cose qua, senza dire our missile, i nostri missili, accurate, accurate, ma sì, ma powerful, che big, powerful. Sembra il bambino Trump, che dice io c'ho questa roba, c'ho il missile grande, certo, ce l'ho grosso. Non c'è dubbio, è Trump. Ho capito, Trump, ma sì, serio, è Trump, dai. La realtà, ma come dai, dici tu. Quale realtà, la realtà. La roba come che dici tu, la realtà. Indifendibile. Comunque, questo, ragazzi, a proposito di missili, a Milano si direbbe il Canassa. No, vabbè, adesso ti fai troppi problemi. Approvi l'omicidio di quello, poi adesso ti fai problemi sulle frasette di Trump. Un momento. Semplificare. Vabbè, omicidio, sì, l'ammazzamento. Hanno ammazzato uno. Omicidio mirato di un terrorista. Omicidio mirato. Non andiamo troppo per il sottile. Operazione chirurgica. Vabbè, hanno fatto fuori omicidio mirato, capito, di dai, un ragazzi. Drone partito dal Qatar. Imparate da dove è partito, importante, dal Qatar, sì, dal Qatar è partito. Allora ragazzi, a proposito di missili, pare che stia avendo un certo successo al PT di Firenze un reparto dedicato per la prima volta ai sex toys. Mamma, cioè al Pitti, no, al Pitti, ma che dovrebbe essere l'abbigliamento, però c'è anche uno stand di una ditta mezza svedese che si chiama Lelo, se non sbaglio. Facciamo un po' di pubblicità a questa Lelo, così ci arrivano un po' di ci arrivano un po' di vibratori così qui. Li usi, bravo. Certamente, naturalmente, mandatemi i vibratori, se potete mandatemi i vibratori in prova, tranquillamente, lo dico apertamente. Marchetta da segnalare, marchetta assoluta. Allora no, marchetta è una notizia questa cosa qua. Questi si signori della Lelo, tu lo sai, una che cosa incredibile. Lo sai che cosa presentano in questi giorni, nei prossimi no, nelle prossime so. Ore farò Scusa qualche indagine. Non lo so. Sai che cosa presentano? Ma praticamente questa acqua che c'è qua, no, non è l'acqua, è la nappi che fa dei pompini. Non voglio sapere, non voglio sapere. Che fa dei pompini. Presentano invece dei pompini della nappa. Ma come fa Capanna invece? Capanna che c'entra quello che fa? Che c'entra Capanna? Ma mi piace Capanna. Ma cosa dici? L'espressione. Ah, Cos'è? D'accordo? Quella è Capanna, questa è la Nappi invece. Io preferisco Capanna. Lo sai il prodotto di punta che presentano a Firenze in queste ore? No, non praticamente so. Tu togli la Nappi. Togli la Nappi da quella immagine che sappiamo tutti con lei che ingozza, no? Che si riempie la bocca. Se togli la Nappi e metti una macchinetta, cioè presentano sostanzialmente un succhiacazzi. Esattamente questo, un prodotto dal design rivoluzionario, non è il primo prodotto, però presentano un prodotto che costa circa 150 euro, una cosa di questo tipo, in cui tu metti l'uccello dentro e te lo succhiano, ma dicono anche in maniera pazzesca, cioè non senti la differenza, almeno nei loro intenti, nel loro obiettivo, presentano un succhiacazzi al Pitti di Firenze. Tu dici è normale? È normale, succede in Italia al Pitti di Firenze dove presentano un succhiacazzi. Tra l'altro nel loro carnet, questa è una cosa nota ma fa sempre impressione, hanno un vibratore in oro che costa 12.000 euro. Se tu vai a vedere, loro vendono, io vorrei capire chi è che se lo compra, un vibratore in oro del valore di 12.000 euro di mercato. Una roba pazzesca. Tu dovresti mandare una telecamera, se avessi una trasmissione manderesti una telecamera, sì, a vedere per, subito. Per raccontare, ma non per morbosità, per raccontare, per raccontare. Flaviano da Monza. Buonasera. Allora dimmi Flaviano, che stavi dicendo? Speriamo che si senta adesso. No, dicevo, si sente? Sì, più o meno si sente, non benissimo ma si sente, dai, forza. No, volevo dirle che la posizione sulla legalizzazione delle droghe leggere non mi pare una grande idea. Ma non lo so, perché... o tu hai la tua idea, evidentemente sei contro, no, io sono a favore, cosa grande... vuoi che ti dica? No, lei conosce quali sono gli effetti, sì, li conosco, sul li metabolismo del cervello delle assolutamente droghe leggere. Assolutamente, ho letto un sacco di saggi, lo sviluppo delle psicosi nei giovani, sì, nei giovanissimi, sì, per far uso certamente delle droghe. Certamente sì. Allora che differenza c'è se se la procurano tanto se la procurano comunque? Se uno la legalizza almeno togliamo un po' di soldi alle mafie, tanto per procurarsela se la procurano lo stesso, non si preoccupi. Non è che se leggono no, i report o le indagini sui pericoli per il cervello non si drogano, no, più, amico mio, non è così. Certo, è irreversibile. L'effetto sì, è ma siamo d'accordo, siamo perfettamente d'accordo. E allora dovreste. E che cosa dovremmo fare? Dire non vi drogate, non vi drogate. Ah, bene. Allora, ma è una ma è da 50 anni che si fanno questi discorsi. È da 50 anni che diciamo. No, non sono 50 anni che si fanno questi discorsi. Perché ci sono degli studi recentissimi. No, ma sono da 50 scusami, Flaviano, cerebrale. Sì, e sì. Io ne so perché. Perché fai il medico? Perché fai il medico? Tutti i giorni, sì, che sono delle distruzioni a livello cerebrale. Sì, delle però non è che se ti fai una canna, non è che se ti fai una non è che se ti fai una canna ogni tanto. Che vengono sviluppate, sì, dai giovani e dai giovanissimi, sì, a lungo andare hanno dei costi sociali in termini. Sì, va bene, Flaviano, va benissimo la tua lezione, va bene. Sì, no, ho capito. Non è una lezione. Ma va benissimo, ma io non lo dico, non ti sto pigliando per il culo. Prima di questo è un Gasparri, col camice. No, non sono Gasparri, anzi. Sei Gasparri col camice, dai. Ma sento, ma... Non sono Gasparri con il camice. Beh, mi sembra di sì, dici le stesse cose, ma è legittimo, va benissimo, no, no, per carità. No, dice no. Sì, sì, si vergogna, sì. Una famiglia che è socialista. Ma che prima c'entra? Ma chi se ne frega? E quindi lei, prima di darmi delle affermazioni. Beh, vedo che Gasparri non è che abbiamo insultato. Esatto, non è che ho detto che sei Totorrina, ho detto sembri Gasparri col camice, dici le stesse cose di Gasparri, no, ma è legittimo, no. Ma è legittimo, no, che tu le dica. Io ti sto dicendo che quello che tu dici va benissimo, sono d'accordo con te. La droga può fare male, non c'è dubbio, no, può fare male. Ci non può. Sì, ma non è che se ti fai una canna, non è che se ti fai una canna a settimana ti va in pappa il cervello in automatico. Non dire cazzate, Flaviano, dai, su, non dire puttanate. E allora dipende, appunto, vedi, dipende. Lo sviluppo delle psicosi, si vada a leggere le statistiche. Ma è molto uso di cannabis e no. In che modo ne fa uso? In maniera costante? In maniera costante, in maniera continua, anche certo. Sporadica. Ma anche sporadica quanto? Che vuol dire sporadica? Ma basta, Che cosa? Basta quanto? No, ma, basta, ma basta cosa? Ma che dici? Ci sono persone che sono particolarmente sensibili. Ma certo, infatti è una cosa personale, allora, è una cosa personale. Cosa ma Fraiano, ma il punto non è questo. Non il punto ma senti, stai tranquillo. Ma devi stare tranquillo, il punto è un altro. Il punto è un altro, il punto è che al di là dei giornalisti. Ma cosa c'entra? Responsabili verso questa comunità. Senti Flaviano, queste il punto affermazioni. Ma cosa? Quali sarebbero le affermazioni? Uno, perché a favore della legalizzazione non è, cioè, che cos'è? Contro i giovani? Che cos'è se uno è a favore della legalizzazione? Contro la testa dei giovani? Manda in pappa il cervello dei giovani perché è a favore della legalizzazione? Ma non diciamo cazzate, la droga, i giovani, nonostante quello che dici tu, che è giusto, se la procurano lo stesso, forse anche perché è proibito, chiaro? Ma guardate che è lo stesso discorso per quanto riguarda alcol e tabacco. Appunto. Le stesse identiche. Che cazzo cose. Facciamo? Eliminiamo alcol e tabacco? Non lo possiamo eliminare, infatti l'alcol e il tabacco sono legali. E la stessa cosa dovremmo fare con la droga leggera. Vabbè, ciao Flavia, ciao, ti saluto. Vai. Non se ne uscirà mai da questo discorso comunque, mai. Beh, no. Ci sono stati negli Stati Uniti che affrontano questa cosa in maniera concreta, per carità, poi anche alcuni con delle... stati hanno legalizzato, ma altri anche no, cioè... per carità, poi ci sono anche delle situazioni in cui negli stessi stati pare che ci sia un aumento di gente che sta male, di problemi al cervello, vai a vedere poi. Allora, vai a vedere, abbiamo... quelli che chiamano la zanzara da un paese tossicodipendente. Abbiamo in diretta una signora che ho conosciuto in una delle ultime non c'entra nulla. Che ho conosciuto in una delle ultime puntate di Dritto e Rovescio, si chiama Simona. Rovescio, la marchetta, ecco la seconda ma marchetta. Ma non c'entra niente la marchetta. Rete 4. Ma non c'entra nulla. Portarci due a fare la marchetta dalla mattina alla sera. Sono un grandissimo amico dell'ottimo del debbio, quindi non c'è allora, nessuno. No, avanti con la marchetta Rete 4. No, non c'entra nulla. Una delle ultime puntate ho conosciuto una ragazza che si chiama Simona, che saluto, buonasera. Simona, ciao. Ah, l'ho vista la puntata. Buonasera, Giuseppe. Ciao Simona. Buonasera, allora, signora Simona. Quanto pesi, Simona? 113 kg. Benissimo. 113, sei alto? 1,57 di altezza. Beh, insomma, 1,57, 113, sei un bel sì. peso. BMI di 45 qualcosa. Come, scusa? BMI, indice di massa corporea di 45 qualcosa. Indice massa corporea, sei sì. 45? Circa. 45. Sì. Ricordi quale dovrebbe essere il parametro normale? Tra i 20 e 25. Tra i 20 e 25 e ride. Normalità, tra virgolette. Ride. No, te lo dico perché appunto io sono stato dal dietologo tanto tempo. Di dove sei, Simona? Di che zona? Pur non essendo grasso. Di Milano. Allora, Milano. Simona, la cosa incredibile. Per chi ha votato nelle ultime elezioni? La cosa c'entra? No, così per chi passato. Perché ha votato, Simona? Parezzo è curioso di sapere perché ha votato. Passato. Perché vabbè, dillo, che ti frega? Non mi ricordo. Salvini, scusa, comunque, no? Vabbè, Salvini, perché probabilmente vota? Salvini, no? Ma perché Salvini no, assolutamente no. Fratelli d'Italia, vabbè, probabilmente. Sì, lascia perdere. No. Simona pesa 113 kg, alta 1,57. Uno dice, vabbè, è un problema. Invece no, per lei no. non è un problema. Allora no. viva. No, vuole viva. Ingrassare. Come cioè, ancora? Vuole ingrassare minimo, ancora? Minimo 120, minimo. Ma ti rendi conto? Ma io non penso sia un obiettivo interessante. È il primo caso di persona. Ma io non so. No, ma è incredibile. No, non è il primo caso. Forse è il primo caso in Italia, ma in America ce ne sono molte. Cioè, è una cosa incredibile. C'è questa ragazza, Simona. Ma è una cosa. Sì. Ma questa è la realtà, caro Parezzo. È la realtà. Beh, è la realtà per lei. Forse. Cioè, lo posso dire in maniera chiara, tanto non si offende. Simona è una cicciona che vuole essere ancora più cicciona. E cosa dice il professor Lemme? Ma non lo so che dice. La insulterebbe sicuramente. Dovremmo fare un grande confronto. Lo faremo certamente. Però, Simona, scusa, cosa hai fatto, per esempio, durante le vacanze di Natale per ingrassare sempre di più? Ma perché vuole ingrassare? Vabbè, io comunque mangio sempre tanto come se fosse Natale, quindi. Cioè tu mangi comunque, no, Natale, Capodanno. Ho fatto cenone di Capodanno, no? Ho fatto il bis di tutto, quindi lasagne, tortellini, sì. dolciumi, tutto quello che c'era, frutta tutto, secca. Doppio, tutto, no, frutta secca. Adesso ci dice, niente, mi faccia capire, uno, io capisco... Frutta secca uno... strafottere, naturalmente, perché fa ingrassare da pazzi la frutta secca, no? Mangiata così. No, ma io sì, capisco uno che dice... a casa mia, in belle quantità. No, Simona, anche. Però mi scusi, tu devi sapere facciamo che... un piccolo passo indietro. Io capisco uno che dice... Ti posso raccontare un aneddoto? Prego, un anetto, come diceva una volta Frassica, no? Una volta se la prenderà con me sicuramente l'ex direttore di questo disgraziato luogo che si chiama Napoletano aveva il vizio quando adesso è dimagrito no? Ricordo, già, cosa fate? Sì, come no. Una volta sai che cosa faceva? Si metteva davanti, lo vedevo ogni tanto con le noccioline, sai, le noccioline. cucine, quelle quelle americane, sì, arachidi. Sì, bravo, le arachidi, bravissimo, vedi che sa tutto lei. Così di prenderle, mangiarcele a mazzi, cioè a pugni, prendeva con i pugni interi e le mangiava così. A un certo punto dicevo: scusa direttore, però ti sei mangiato un sacchetto intero di arachidi in 3 minuti, che è una roba, che un sacchetto intero di arachidi, non so questo, quante è un calorie. Grande aneddoto, così. 600 calorie a letto. Quante sono calorie? Felicissimo. Quante calorie? 600 calorie a letto. Lo vedi che veloci di più, 700. Ma lo vedi? Perché lei le mangia per ingrassare. Fate presto. E metteva dentro, fate presto. Scusami, un gigante assoluto. Fate presto. Simona, ma tu per ingrassare, Parenzo giustamente chiedeva. No, ma la domanda è: io capisco uno che vuole, a chi ha fame vuole mangiare, gli piace mangiare. Non contesto questo, ma contesto il fatto che lei deliberatamente invece voglia ingrassare. Cioè, io capisco uno che dice: ho fame. È una questione estetica, perché sono in controtendenza con questa società, diciamo, soprattutto con la società qua da noi, perché ripeto, in America, comunque in generale, nel mondo anglosassone, sono molto più. E l'anti-Ferragni, cioè lei è l'anti-Ferragni, l'anti che qualsiasi persona. Cioè, oggi c'è il culto della magrezza, questa qua esatto. Pesa 113. Io ho il culto della grassezza, invece. Lei ha il culto del, cioè, vuole ingrassare esatto. Sempre di più, ma 120 ma è anche poco. Ma non si sente male, cara, scusi, beh, non si sente male. Non andare più oltre, ma purtroppo per me faccio abbastanza fatica a prendere peso, cioè. Fa fatica a prendere peso, capisci? Devo forzare, diciamo, ma i medici, cioè, i medici che dicono? I medici che dicono? Eh? I medici che dicono? I medici non li ascolto. Come non li ascolti? Scusa. Perché non sono d'accordo con me, però io finché mi sento bene sono io il ho capito, medico, se ti, se ti piglio un coccolone a un certo punto... No, non mi viene perché sto benissimo. Mi beh, il cuore, comunque, il cuore, il colesterolo. Il movimento, quindi... Vabbè, ferma là, che torniamo con te. Simona è un caso sì. Più unico che raro. Una donna sì. Che non ha il culto della magrezza, pesa 113 kg, alta 1,57, indice di massa corporea 45, cioè praticamente il doppio di quello consentito, ma sì. Vuole andare oltre, arrivare esatto. A 120 e non ci riesce. Che cazzo mangi? Adesso tu mi devi descrivere esattamente quando ci ricollegheremo dopo questa disgraziata interruzione, perché questa è una disgraziata trasmissione con tantissime disgraziate interruzioni, c'è il traffico, qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Dopo tu torni e ci dici qual è il tuo menù, cioè qual è la tua dieta quotidiana. Ferma, sì, là, ferma. La Zanzara. Ascolta la Zanzara. Noi da piccoli si buttava sul video porno intitolato La Zia e Pugnetta Collettiva. Gennaio, si parte ribelli, la fidanzata occupa il bagno mentre fa lo shampoo al cane, si piscia nel lavandino della cucina. Avanti tutta! Allora, c'è gente che mi scrive: questa tizia è libera di ingrassare quanto le pare, ma non certo. È giusto che poi le cure mediche che dovrà sicuramente sostenere le paghiamo noi, e le solite cazzate, quando uno ha un infarto e poi gli dobbiamo mettere a posto il cuore. Ragazzi, uno è libero di fare il cazzo che vuole, anche di ingrassare, cioè anche di essere obeso. Basta che non rompa il cazzo agli altri, e non mi sembra che Simona rompa il cazzo agli altri, cioè questo non c'è dubbio. No, assolutamente. Vuole ingrassare e arrivare fino a 120, ma perché non fino a 130? Perché solo fino a 120? Non ho capito. No, anche di più, io ho detto 120 perché siccome faccio fatica a prendere peso, no, e quindi 120 per me è già un obiettivo difficile da raggiungere, magari se ci arrivassi. Come fai allora? Ma che senso, una cosa folle però. Ma ragazzi, ma se quella si sente, evidentemente si sente bella così, cioè si sente appetibile così, questo è il punto, sbaglio? Sì, sì, anche se gli uomini comunque non mi apprezzano, dico la verità, sono sincera, però basta che mi faccio io, non interessa. Scusa, no, cioè io non cambio il mio aspetto. Cioè tu ti piaci grassa? Che non mi... Ti piaci grassa? Io sì, mi piaccio grassa. Ma cioè, problemi di salute ora? Mi piaccio, però mi piaccio io, questo basta. Cioè, scusa, io non mi cambierei mai per piacere a un uomo. Tu hai un uomo? Hai un fidanzato? Ma no. No, ma da quanto tempo non ce l'hai? Da diverso tempo, però comunque ripeto, meglio solo che mal accompagnata. Le tue scusami se sono diretto, qui in questa trasmissione siamo molto diretti. Riesci ad avere rapporti sessuali nonostante la tua stazza o no? Questo è il punto fondamentale. Oppure non ti interessa? Che cazzo ne so? Vuoi Interessa mangiare. Non ti interessa. Ti interessa più mangiare che scopare? Più mangiare che scopare ti interessa? Esatto, sicuramente. Capisci Davide, questo è il punto. No, ma per carità, ma non mi stupisco che sia andata a raccontare queste cose qui in televisione, sembra un caso molto interessante. Quello che mi stupisce è il fatto che un conto è uno che dice voglio, ma ho fame e quindi mangio e me ne frego. Ma lei un conto avrà anche fame, cioè immagino. No, ma un conto è deliberatamente. Io sono una buongustaia, insomma. Io però tu dici mangi anche per ingrassare, mangi anche quando non hai voglia, dice Parenzo. Sì, ogni tanto sì, mi capita. Ecco, dimmi un po', sì. Come funziona? Ti svegli la mattina, cosa mangi a colazione? Faccio allora colazione con calma, perché fortunatamente in genere ho tempo di poter fare colazione con calma, quindi sì. Allora, in genere prendo il latte di soia, sarà strano, ma invece del latte di mucca prendo il latte di soia. Ecco, quindi latte di soia magari al cioccolato, diversi tipi ce ne sono. Va bene, poi? I biscotti ovviamente non li conto, quindi... Biscotti cioè, a strafottere? A fare su internet con lo smartphone, contemporaneamente mangio, quindi non mi rendo conto quanti ne mangio di biscotti. Sì, ne puoi mangiare anche 30. 7-10, non so. Ah, 7-10 biscotti, poi? Sì, poi mangio frutta secca, frutta quindi secca. Arachidi, anacardi, sì. Noci, nocciole, mandorle, sì. Tutto di più, semi di zucca, sì. Tutta una frutta secca. Sì. Un bicchiere di spremuta d'arancia rossa. Sì. Vabbè, qui è normale, una colazione sì. Ha spremuto la cosa più normale che lei ha detto. Non posso fare pubblicità, però quei salamini da cocktail, insomma, da aperitivi, no? Salamini così, ecco. Anche là sì, come sì, piovesse. Sì. Poi pranzo, cioè qualche cosa di quando è che inizia? Quando è che inizia la sostanza? Allora, pranzo, vabbè, la pasta sempre, pranzo e cena. Sempre. Pasta e cena, pranzo. Fa malissimo. Quantità abbondante. No, cioè, pranzo e cena, cosa vuol dire 100 grammi tutti i giorni? Nella dieta mediterranea tutti è molto giorni. Importante. Ma quanti grammi? Io ne mangio ad esempio dai 60 agli 80 massimo, una volta al giorno. No, io la butto giù direttamente dalla confezione, quindi non lo so, però comunque... Come 500 grammi, mezzo chilo? Si farà mezzo chilo ogni po'. 20, non lo so. Ma si farà quello che si farà, eccetera. Ma dolci come piovessero, immagino. Dolci, sì, ma quelli mi piacciono tutti, quindi profiterol. Ma come si arriva a 120? Cioè da 113 a 120? Com'è? Ti sei fatto un piano per arrivare da 113 a 120? Leggo su internet diete da 5.000 calorie al giorno, ma poi sono assurde, sono impossibili, non riuscirei mai a seguirle, non sono per me. Dunque tu sei orientata verso le 5.000 calorie al giorno. Assurdi. Cioè, capito? Lei va su internet, la gente va su internet per dimagrire, lei va su internet per trovare le diete da 5.000 calorie. Per ingrassare su internet, perché avevo provato a rivolgermi a una nutrizionista, si è rifiutata di aiutarmi, quindi ho detto, non ho bisogno del suo aiuto, c'è internet, fortunatamente trovo. Ma non c'è un'associazione di ciccione che vogliono diventare ancora più ciccione? Cioè, hai trovato le tue amiche? In Italia no. Cioè, io su internet ho trovato cose di questo tipo, ma delle amiche l'hai trovato? Gente in inglese, io. Ma gente che fa la stessa cosa tua, l'hai trovato o no? Sì, cioè, sì, amiche, sì. Amiche che condividono lo stesso destino. No, qua nessuno, in Italia nessuno. In Italia nessuno. Sembra di essere un caso. Stasera più che se mangia, ad esempio, signora cara, stasera, signora Simona. Stasera, la cena di stasera. Devo vedere, insomma, apro il frigo e quello che trovo. Comunque patate, no. Probabilmente mangerò pasta, quindi carboidrati. Ecco, fondamentalmente pasta condita sempre. Come però stasera? Condita come pasta? No, la pasta non la faccio neanche tanto complicata, perché ecco, devo dire che purtroppo non mi piace cucinare. Poi uno si stupisce. O condita col pesto, quello già pronto ovviamente. Poi no. Uno si stupisce che non trovi un uomo. Uno si stupisce che non trovi un uomo, ma te credo che non trovi un uomo. Come, non cazzo, lo vuole, fa, mi pare. Come cazzo fa uno a avvicinarsi a te? Cioè, a provare a avvicinarsi a te, impossibile. Cioè, quella ma è difficile. Beh, uno deve avere il culto, ce ne sono però in realtà, quelli che hanno il culto della grassezza. Allora io faccio un appello pubblico, vuoi che faccio un piccolo appello? O non te ne frega niente di trovare un uomo? Non è necessario. Cioè, non lo vuoi trovare? Da sola. No, ma guarda che ti posso dire che c'è un sacco di gente in questa trasmissione. Sì, no, lo so. Che sono appassionati della perversione del grasso. Io eviterei gli appelli, sai? Generale. Sì, sì, effettivamente gli appelli in questo. Eviterei appelli dicendo chiamare, perché no. Questa trasmissione ha la capacità di essere come quelle carte che uccidono le mosche, sai, quelle peste, insomma, di attrarre una quantità di matti, megalomani, rincoglioniti. Però c'è un sacco di gente che adora il grasso, anche sessualmente, capisci? Cioè, sì, ci sono. A te non ti chiamano persone che vogliono trombare con te perché sei grassa? No, una volta ero iscritta in un sito internet di ammiratori delle donne grasse, ma ho avuto solo brutte esperienze, quindi va bene, non esiste neanche più quel sito, per forza. Meglio così, quindi eviterei, diciamo, di fare fare questo tipo di... Va bene, Simona, mi raccomando, cerchiamo di arrivare a questi 120, se proprio questo è il tuo obiettivo. Speriamo. Speriamo. Ma sì, ma questa vuole arrivare a 120, lasciala arrivare. Ma lasciala arrivare a 120. Incentivare comportamenti che le possono... Si preoccupano della mia salute, ripeto che sto benissimo, quindi non penso sulla sanità pubblica, non sulle tasche di nessuno, ecco. Viva le BBV, viva le BBV, viva quelle le grassone. Cioè, c'è un sacco di gente che sessualmente adora farsi le grasse, ragazzi. Ancora. È una perversione, perché lì stai lì e ti sembra di stare con una specie di alieno, diciamo, con una specie di terzo sesso che non è né donna, perché poi alla fine una persona che è una specie di palla, e non sto dicendo di te perché non ti ricordo bene, però una persona molto grassa è una specie di palla che sta lì addosso a te, che ti arriva addosso e tu dici ma io così vorrei diventare, cioè, capisci, se ci riuscissi. Tu vuoi diventare che cosa esattamente? C'hai un modello? Più grande possibile. Più grossa possibile, pazzesco. Sì. Ciao Simona, sì. Ti abbraccio, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, Antonio da Roma, vai Antonio. Sì, buonasera Luciano, buonasera Lorenzo. Sì. Buonasera. Volevo parlare di quelle due ragazze uccise, assassinate a Ponte Milvio. Assassinate. Uccise. Questo giudice, non so chi è, che poi voi giornalisti non attaccate mai la magistratura. Ma che è successo di nuovo? Che c'è di nuovo? Di dargli un concorso di colpa. Non lo so. Ancora non è stato deciso niente, Antonio. Scusa, Luciani, con rischio che poi neanche l'assicurazione le pagheranno. Tu ci avrai una macchina, no? Io ce l'ho una macchina, insomma, un po' modesta. Io so che adesso le macchine adesso, se vado a 50 all'ora, dopo due mesi se freno, se ferma la macchina. Lo sai, no? Non è più avanzati. A me questo padre regista che gli emette il migliore avvocato d'Italia. Ma chi c'è da chiunque ha fatto questa la punizione al figlio? Ma che punizione deve fare, che è un dramma anche per lui? Sequestrata. Ma anche per sto ragazzo è un dramma, sono tre drammi, no, che dice senti, delle tre caro, famiglie senti, coinvolte. Tu metti bocca, senti, scusa Lorenzo, tu metti bocca sempre sulle cose sbagliate. Cazzate, io ho due figli, uno di 50 anni. Dice? Una di 45 anni, a me se succede una cosa di mi metto il meglio avvocato, devono pagare, capito? Dato che i miei figli, con la mia educazione, ma non hanno già preso sentenziato mai una multa. Che è colpa sua, scusami, Antonio, non rompere colpa il sua, cazzo e poi metti sempre bocca sulle cose sbagliate, non capisci so. Niente. Intanto si sta dimostrando che è passato col verde. Tu della vita, è non passato col verde. Vieni in giro con me e ti faccio vedere come la vita. Aspetta, Antonio, scusami un attimo. Allora, Antonio è instabile. Io me la prendo con il padre che gli ha messo il migliore avvocato. Ma che deve fare il peggiore? Scusa, ma per forza. Posso parlare un secondo, Cruciani? Allora, Antonio, dato questi figli di papà, perché io non ho figli di papà, io ho fatto l'operaio per 5 anni. Ma che c'entra? Ma anche lei avrebbe trovato un avvocato per difendere polizia, suo figlio. Perché questo è un problema che ma non c'è che hanno messo gli altri, giustamente l'amico Vino Nuovo. Mi segnala, me l'hanno dimenticato. Gli altri hanno messo la buongiorno, non è che hanno messo l'ultima arrivata. Cioè è quella che ha lavorato con Coppi, peraltro, che è invece l'avvocato di Genovese. Allora. Senti, c'è stata una legge, no? Omicidio stradale. Ma adesso, ai domiciliari. Allora, quelle che ha ucciso sette persone sta agli arresti, quello che ha acceso quei due ragazze alle Marche sta agli arresti. Questo ma rendete conto di che stiamo a parlare? Ma io me la prendo arresti? Con che il padre, dice? Che educazione dà al figlio? Ma che dice? Ma questo è pazzo completamente. Ma tu sei pazzo, tu che capisci un cazzo. Ma questo è pazzo completamente. Scusami, Antonio, completamente un cazzo, pazzo. Lorenzo, della vita, tu completamente non c'hai pazzo. Aspetta, fermi un po', vai in giro. Scusami, Antonio, il punto fondamentale è questo. Innanzitutto questo qua è domiciliari. Primo, è ancora domiciliari. Meno male. È domiciliario, sai che so oggi. Ma che ne sai che sono i domiciliari? Ma magari c'è stato. Fatto i domiciliari, io ho fatto proprio il carcere vero, deficiente. Questo spiega tutto. Tu ma deficiente chi? Criminale. E viene a dare lezioni. Criminale che è stato pure in carcere. Ma non dire stupidaggini. Ma criminale. E tu saresti un esempio per i tuoi figli? E tu saresti un esempio per i tuoi figli? Aspetta che torno con Antonio. Vergognati. Fermo là. Fineco, la banca che semplifica la banca. vi presenta. Pubblicità. Valorizza i tuoi risparmi con Chebanca. Con conto deposito hai l'1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata 6 mesi entro il 29 febbraio 2020. Interessi in anticipo. Fogli informativi su chebanca.it. Chebanca. Gruppo Mediobanca. Cerco maschio alfa. Affettuoso e intelligente e ricco e passionale e bravo a cucinare. E anche a stirare. Se vuoi sempre di più, scegli Fiat. Solo a gennaio tutta la gamma è a piccole rate con anticipo zero. Ad esempio, Panda da 99 euro al mese per i primi 2 anni e poi da 134 euro al mese. E con l'assicurazione make-up, i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TAN 645 TAG 939, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiat.it. Il climatizzatore ora? Ma fuori si gela! Sì, ma fino al 13 febbraio da 1 euro con i migliori climatizzatori come il Mitsubishi Monosplit in classe A++ a 599 euro ci portiamo a casa in più l'asciugatrice Bosch. Tutti e due insieme a 599 euro? Sì, e con il tasso zero pagheremo poi, quando si andrà al mare. Tanetag 0%, 20 rate, salva approvazione della finanziaria. 1 euro, batte, forte, sempre. La zanzara. Fitusi, sono i nostri politici. E noi siamo pecoroni. Ladri! E questo è un buon anno per tutti che arriverà, perché gli italiani pagheremo sempre noi. Evviva l'Italia! Eccola qua, eccola. Saluta un po' sta manica dei froci. Dì che sono quattro froci questi. Siete quattro froci? Eccoli, ma venite a trovarla sta ragazza, no? Venite a trovarmi, no? Che grappolo dei froci. State attenti perché se vi becco vi ammazzo io. Hai visto che matto? Vecchia. Te lo ricordi, sì? Ma come dimenticare? L'amico del demone scimmio, quello un bestiario, che un ci bestiario mise in collegamento la prima volta dal suo ospedale. L'ospedale psichiatrico sostanzialmente. No, non è l'ospedale psichiatrico. Beh, non ci sono più poi di, cioè, comunque sono un luogo di cura per sì, persone con problemi di mente. Ci passò un tizio che tra l'altro poi mi hanno detto sì, che è stato uno che ha ammazzato un po' di persone, insomma. Corretto. Ce lo corretto. Passò in diretta alla zanzara, non c'è ombra di dubbio. Un messaggio che mi viene da Susanna, a proposito, perché avete sentito prima la voce di Susanna che mi aggiorna sulle sue sulla sua vita da puttana, da prostituta, per strada, da persona, da professionista libera, indipendente, certo con un po' di sofferenze, perché è un lavoro, è certamente un lavoro, però con delle particolarità, io dico semplicemente questo, con delle particolarità. Ciao Crucio, come stai? Io sono sempre qui a succhiare cazzi. Questa è l'apertura, vabbè, diciamo, vabbè, del vabbè, messaggio vabbè, che vabbè, abbiamo mandato. Un napoletano è venuto il 6 gennaio con 30 euro, mi ha scopato, però non veniva mai, gli ho detto scusami, sei troppo lungo, non posso stare troppo a lungo con te, pensa te. E allora lui ha detto allora ridammi i soldi e mi ha riempito di parolacce e offese. Amica mia, e poi lei se la prende con i napoletani dicendo che io ho ragione. Adesso non è che perché un napoletano ha fatto questo, poteva farlo chiunque altro. Però anche tu, amica mia, sono i rischi del mestiere. Quando stai lì è evidente che possono succedere anche queste cose qui. Voleva i soldi. Questo invece sbaglia a rivolere i soldi. La prestazione è anche, no, a tempo. Non è che puoi stare lì fino all'infinito. Uno a un certo punto dice, giustamente, dopo 20 minuti, mezz'ora, dice, vabbè, amico mio, che dobbiamo fare, no? La vita di una prostituta, il diario di una prostituta. Stupendo. È tutto vero, non inventato. Con chi eravamo? Antonio da Roma. Allora, Antonio da Roma, voglio capire innanzitutto se tu una volta hai chiamato dicendo che tuo padre era comunista, sei tu? Sì, sì, sono io, Giuseppe. Sì, no, guarda, io te l'ho sempre rispettato come giornalista, però fammi la cortesia. E lui, io sono comunista, però io... Ma tu sei comunista? Questi, sì. No, io ma perché no, è stato in galera lei? Li odio. Li odio perché mi hanno rovinato la mia... Ma lei perché è stato in galera? Anziché telefonare e farla morale agli tu altri. Perché tu non dire criminale chi è stato in galera, perché negli anni 60, caro mio, si andava pure a rubare le mele. Se rubavi una tecnicamente mela, chi è stato in galera è un criminale. Ma tu perché sei stato in galera? Ma criminale sei tu, criminale. No. Ma senti, scusa tanto Giuseppe, perché sei andato per... dal microfono, so cretino. Ma che levi? Ma leva di te. È la sinistra di adesso che fa schifo. Ma me lo levi da torno perché sei stato in galera, Antonio? Perché sei stato in galera? Ma per reati stupidi, per fame! Calma. Per fame, capito? Deficiente. No, per ma fame. Perché cosa? Ho capito, ci sono i reati, poi alla fine sono furto, rapina, che hai fatto? Per tentare i furti delle cose, delle stupidaggini, Giuseppe. Beh, quindi anni? È stato in galera, telefono alla radio per dire che quello non ha diritto alla difesa, ma questo è pazzo. Noi ci incontriamo, andiamo alla questura e facciamo fare due controlli a me e a lui, vediamo chi è più pulito. Beh, no, sicuramente se è più pulito David, scusa. 45 non c'hanno una multa. E te credo. Io sono cresciuto con principi sani, gli dici a quel cretino di sinistra. E infatti che è in galera. Ma che sinistra? Ma infatti, ma che lezioni dà? Quelli come mio padre, che lavorava, si faceva tre tessere, Partito Comunista, Giovani Comunisti e CGIL, e io il latte non lo bevevo. Ma se uno dice una cazzata, dice una cazzata, che c'entra? A quel cretino vicino a te. Scusami, che Antonio, un cazzo della vita. Però io voglio capire una cosa, quanto hai fatto tecnicamente in galera? Quanto scusa, hai fatto? Tanto, quanto ma, hai fatto? Ma sono, senti, qui se c'è un criminale sei tu, ma, capito? Mo te lo ripeto, sei ma tu. Ma risponda alla domanda, scusi, che le fa crociare. Ma la domanda la facciamo, andiamo insieme davanti ma al giudice. Ma risponda alla domanda, ma quale giudice? Ma di che parla? Allora, io ho criticato la stronzata che lei fammi ha detto, parlare, ha telefonato parlare, e ha criticato la scelta dell'avvocato di Veronesi nella difesa. Ma non dica stupidaggini, Somaro, anziché lei ha detto una stupidaggine. Veronesi ha diritto ad avere e gli diciamo ci fate indagini su di noi a me ma fate ma perché volete che me ne frega a me. Scusami Antonio, voglio capire tu ci nascondi, io non c'ho da nascondere ma niente. Ma figuriamoci da nascondere, problema. Sei stato già in galera, te credo, che c'è da nascondere te? Sei stato in galera, io che vuoi da me? Io non c'ho niente da nascondere. No, tu te sei stato in galera, io ancora no. Tu no, perché la legge è la legge da adesso. Non c'è nessuno in galera. Però scusami Antonio, voglio capire una cosa. Tu te la prendi con i genitori del ragazzo? Ma questo qua hanno scelto un avvocato e gli altri hanno scelto un avvocato di pari livello. Se la vedranno in tribunale, vediamo che cosa è successo. Giuseppe, dai, su. Scusa tanto, ma che educazione gli do a mio figlio? Ho capito, quello sono cazzi loro l'educazione che hanno dato al figlio. È recidivo. Settimana prima gli danno la patente. Sì, per droga, carità, io lo ho capito. Io lo proteggo, no, io te caccio fuori da casa, adesso... Io ho fatto con i miei figli. Giuseppe, capito? Che hai fatto? L'hai cacciato da casa? Io ho fatto così a mio figlio a 20 anni, ho detto che stava lì, esci da casa. Perché, che ha fatto? E si è fatto uomo. Ma che sarà contento? Della gente che non mi piaceva. Ma... tanto semplice. Ho capito. Non ci vuole niente. Senti, poi tu vedi un'altra cosa. Sì, grandi signori che c'hanno. Vedi, indaga, no? Ne scopri sempre di più su questo qua. Indaga. Migliaia di migliaia di euro per mettere un avvocato. Perché non. Io mi sono pure informato, la polizia, com'è non fanno i controlli il sabato fuori queste discoteche? Le fanno, non dire stupidaggini, le fanno, non dire allora, stupidaggini. Allora non ci fanno un stai zitto, non sai niente. Dici tu delle stupidaggini banali, inenarrabili. Ma ci sono le discoteche all'uscita? Ma certo che ci sono, sempre. Ma non c'è niente, non c'è niente. Lo sai come fa, lo sai tu, questa appena uscito di galera e detta io odio, e spiega al mondo Renzi. Questo esce di galera, è uscito di galera e ti spiega al mondo, capito? Oggi per chi voti? Oggi per chi voti? Oggi per chi voti? Oggi per chi voti, Antonio? Per carità, io adesso ultimamente te l'ho detto Luciano, io ho votato ultimamente il 5 Stelle, oggi ma niente, non c'è dubbio. Non si può votare nessuno. Questi nessuno. Questi hanno dimostrato e sono competenti. A sinistra quella che fa schifo, Salvini, hanno speculato sugli operai e poi quello gli mette l'articolo 18. Ma prendete conto di che parlava? Salvini, Meloni, non ti piacciono? No, per carità, che mi va a buttare su destra? No, perché è figlio del proprio, no, ma io non sono razzista. Ciao Antonio, ti saluto. Ciao. Cervello ormai. Allora ragazzi, nei giorni scorsi abbiamo avuto una conversazione surreale, io e Parenzo al telefono con il signor Bini. Con il signor Bini. Ah, Bini è l'autore, cioè l'autore, ma te la ricordi la telefonata che abbiamo fatto? Come no? Allora, non posso mettere tutta questa telefonata integrale perché mettere sarebbe. Tutta. No, bellissimo, no, sono 10 minuti infernali, bellissimo, eccetera, eccetera. Ti faccio sentire dei pezzetti. No, faccio sentire agli ascoltatori dei pezzetti, non me lo ricordo nemmeno più. L'abbiamo registrato nei giorni scorsi. Credo che la prima, non mi ricordo, ma la prima domanda è se lui si aspettava questo successo incredibile online, sì, del vulcano, da anni ormai. Del vulcano, vulcano o, non solo. Il vulcano o. Senta, ma si dà una spiegazione del perché lei è diventato così popolare in del Italia? Del successo, insomma. Che spiegazione c'è a questo, maestro? Ma non lo so, perché io ho cercato di fare sempre le cose con un'estrema umiltà. Non, sì, non me l'aspettavo neanche io questo, veramente. È stata una sorpresa. Che cos'è il vulcano? Cosa è il vulcano? Piangerò. Sono ammirato in particolare, diciamo, dal testo Il vulcano O. Cioè, come nasce l'idea del O? Cioè, O cos'è? Uno che si stupisce della bellezza del vulcano? Beh, veramente questa canzone sì, è nata, no, sia per il vulcano in sé per sé, ma sì, anche per quanto riguarda, cioè, una persona che... Sì. Chiaro. Da sfogo, libero sfogo alla sua indole, diciamo. Cioè, che vuol dire, maestro? Cioè, da sfogo la persona, il vulcano è ruttato, poi se andrò in quel paese là, si capirò se mi vuoi ancora bene, queste cose qui. Ah, sì, è una metafora, diciamo, certo, il vulcano. Certo. Sì. Che metafora è quella del vulcano? Diciamo, è una persona che se, diciamo, pensa alla sua, diciamo, pensa alla sua donna, sì, e dice: se andrò in quel paese là, capirò se mi, come ho detto prima, capirò se mi vuoi ancora bene. E queste cose, sì, qui, diciamo. Cioè, un uomo ferito. Così è nata la canzone. È un uomo, diciamo, ferito, diciamo, parlare di questo argomento. Cioè, è un uomo ferito, non è un uomo che vuole trombare, no? No, non c'entra niente il sesso. No, ma che stai scherzando? Come fai? Io ci sarò, che non me lo ricordo. Io ci sarò per te, solo per te. Io ci sarò per te, solo per te. E ti aiuterò quando piangerai, consolandoti, abbracciandoti, perché ci sarò per te, solo per te. Scoppierà il sole, piangerà la terra e nel cielo io... Poi... Beh, ma è una canzone d'amore meravigliosa, cioè, ma maestro, ma scusi, sì, ma... perché parla di una persona che, cioè, in pratica io ci sarò sempre, vuole dire che va bene, per il mio amore. Questa non era il vulcano, era Io ci sarò. Io ci la sarò. Spiegazione di Io ci sarò. Ma io sono Freccero, il direttore di Rai 2, dai che lo portiamo in televisione, ma ci vuole più verve, ci vuole la verve, qui andiamo al 2% con sta voce, dai, io voglio la sigla, la sigla del Rai 2, deve essere il vulcano, il Rai 2, dai, però non si può portare in televisione così, però dai, un po' di verve, la televisione non fa ascolto così, dai, mi distruggi la rete, dai, cioè, Freccero sta dicendo, maestro, che lei deve un po' esplodere anche come personaggio con la voce, ha capito? Ma come si sì, fa? Ma io non ho nessun rancore per quanto riguarda il mio comportamento, il mio modo di agire. Non vuole esplodere mediaticamente, mentre Freccero in questo collegamento voleva già portare, lo voleva già portare su Rai 2, però non dice troppo lento. Italiani! Aspetta. Bellissimo. Aspetta. Sì. Com'era il ritornello di Sta andando tutto male? Poi la lascio stare, maestro. Com'era il ritornello? Sta andando tutto male. Poi? Finito. Poi come fa? Vabbè. Poi, diciamo, siccome ne faccio tante, non è che ricordo. Ah, beh, certo. A memoria tutti e tre. Non è che però ci sia una grande varietà di testi, eh? Il vulcano! Signor Bini! Signor Bini! Il vulcano! Vabbè. Allora, ragazzi, Jürgen da Parma, vai Jürgen, qui siamo ovviamente tempestati di telefonate di gente che dice che se fa le canne non succede un cazzo. Jürgen, dimmi. Oh, Jürgen. Niente, dai, Ciro Napoli, vai, Ciro Napoli. Se ne è fumata una di troppo pure stasera. Ciro, dimmi. L'abbiamo perso. Dimmi, Ciro, dimmi. Ciro. Sì, salve Giuseppe, ciao bello di papà. Dimmi. Giuseppe, io considerando che vi considero dei pericolosi a fare delle non ho capito, discorsi. Sento poco. Simone da Varese, ragazzi, cercate di mettere meglio quel telefono, dai. Simone, dimmi. Sì, Io volevo condividere con voi un mio dubbio, sì, in riferimento a quello che dicevate prima sugli omosessuali, sì, gli omosessuali no, le lesbiche sì, eccetera. Ma quelli come il super cattolico di prima che parlano di la sodomia, eccetera, se cerchi sul vocabolario la definizione di sodomia è sesso anale. Quindi siccome loro sono contrari alla sodomia, vuol dire che non fanno sesso anale neanche con la moglie. No, perché loro dicono effettivamente sì, no, anche con la moglie non fanno sesso anale. Quelli più coerenti dicono che la sodomia è vietata anche dalle norme cristiane, dalle norme cattoliche, anche per gli eterosessuali. Io non ci credo troppo, secondo me alla fine poi lo fanno tutti. Amico mio, anche secondo me quelli che si scagliano contro i sodomiti sono i primi inculatori, o quelli che, i primi che si fanno inchiappettare magari con una mascherina, come ci ha raccontato ieri quel signore che costruiva macchine per il sadomaso, sono i primi a farsi inculare poi, però questo non lo possiamo sapere. Figuriamoci. Più coerenti dicono che anche nel campo eterosessuale il sesso anale è vietato, tra virgolette, è proibito dalle norme, dalle carte, dalle leggi, capito? Simone? Capito. E comunque, ragazzi, accontento Parenzo, italiani! Ale. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Oh. E poi dite, ah, perché siamo, ma che sei? Che se pagliacci siete tutti!